Pronto? Professore, sono Cruciani, volevo chiarire che è successo. Guarda, no, se ti incontro, guarda, ricordo, mi porti in processo, ma guarda, ti faccio vedere, sei un mascal, non ti sei lontano perché tu sei un delinquente. Arrivederci. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Preservare la specie umana, curiamo gli omosessuali per vedere di riportarli all'eterosessualità. Abbiamo pochi soldi, soprattutto in Europa, e dobbiamo destinarli a preservare la specie. Tu che parli sempre di omosessuali, non è che... Ma infatti ti vedo bene te con i tacchi in rossetto, devo dire, non ti dica male. Allora ragazzi, tutti i partiti stanno cercando di scegliere i loro candidati per le elezioni amministrative. Iniziamo così stasera. Parenzo, adesso vi faccio sentire un documento eccezionale. Un documento vero, reale. E delle voci di cittadini che interrogano i presunti candidati dei 5 Stelle al Comune di Milano per fare il sindaco di Milano. Fanno diverse domande, sono 8 candidati e... Ma sentite questa domanda, io non capisco ragazzi come si fa non solo a fare questa domanda, vabbè, però la gente può chiedere qualsiasi cosa, ma a rispondere, cioè questi candidati dei 5 Stelle a Milano rispondono a questa domanda qui e cercano anche, come dire, la risposta più che è più vicina magari alle idee del Movimento 5 Stelle. Sentite. C'è una domanda per tutti quanti, se siete vegetariani. Non sono vegetariano, anche se ho un'alimentazione all'80% circa vegetariana. Ah beh. Quasi imbarazzante, l'ultima volta che sono stato in un ristorante vegano, non più tardi di una settimana fa, ho mangiato una tartare, ma vi garantisco era buonissima. Mia moglie è vegetariana, ma non ci riesco. Io sono vegetariano da quasi un anno, già prima mangiavo pochissima carne, a Natale dell'anno scorso ho deciso completamente di smettere e devo dire che la verità è stato un grosso passo e sono dimagrito anche 10 kg. Io mangio poca carne, vorrei mangiare solo di animali vissuti liberamente e in una fattoria e basta. La mangio una volta alla settimana e una volta anche qui da un altro produttore di polli, Happy Chicken li chiamano, perché vivono in libertà. Ragazzi, ma vi rendete conto? Ma noi, se un candidato sindaco, un sindaco dei 5 Stelle o di qualsiasi partito è vegetariano, no, ma che cazzo ce ne frega? Ma chi se ne frega? Poi la risposta più straordinaria è questa: mangio poca carne, ma di animali che vivono liberamente. Beh, questo. Come si fa a sapere? Ma di animali che vivono liberamente, liberamente. Amici miei! Ho scoperto che esistono i freegan. Sai cosa sono i freegan? Freegan, cioè quelli che praticamente vivono di scarti. Vivono gratis. Cioè vivono free, vuol non dire consumando gratis. Loro in più, diciamo. Il mondo già consuma tanto, questa è la filosofia. Denunzio che qui la password wifi non funziona. Ma chi se ne frega? Freegan, vai. Ci sembra ridicolo comprare una cosa in un supermercato che la mattina dopo puoi trovare dentro un sacco nero. Ti dà fastidio lo spreco? Sì. Sembra monnezza, sì, però guardarci dentro no. No, è una cosa mentale. Cioè se sono sullo scaffale sono... Roba buona. E se invece sono in un sacco sono già un'altra cosa. Ragazzi, è incredibile. Torna la Marchi. No. Torna la Marchi in televisione, sì, te l'ho già detto ieri, vuole fare televisione. Pensavo fosse uno scherzo, invece no, ho visto ho capito, però adesso tu che ti sei accanito sempre contro Vanna Marchi dicendo che ha truffato la gente, che ha rovinato un sacco di persone. Cioè, non lo dico io. Però ha scontato la sua pena, adesso non può tornare in televisione. E dai, su. Vanna Marchi alla Zanzara. Vanna Marchi tornerà in televisione. Allora, Vanna Marchi tornerà, ma non se n'è andata mai praticamente. Beh, perché non hanno fatto altro che parlare di Vanna Marchi in televisione. Hanno scritto libri, hanno allora, fatto citazioni, cioè, allora, eccetera, eccetera. Ma tornerà più forte di prima in televisione? Perché no? Perché no? E chi può saperlo? E chi può dirlo? Ma a fare cosa, per esempio? Cosa le piacerebbe fare in TV? Vedremo, magari faccio i tortellini, sai com'è? Fa tante cose. Ma mica fare di nuovo le televendite, queste cose, non no, credo. No, non venderò mai niente in televisione. Ah, mai più niente? No, assolutamente. Non chiedo scusa! Allora, uno chiede scusa quando ha delle colpe, quando non ne ha non lo fa. Lei pensa di non essere stato di non essere assolutamente di non devo chiedere scusa a nessuno. Cioè, nonostante le condanne definitive non chiede scusa a nessuna persona, a nessuno, nessuna famiglia, proprio, no. Per cui non c'è nessuno che ha sofferto a causa vostra, diciamo, cosa ma magari, sua particolare. Ma a causa mia no, di sicuro. No, se hanno sofferto e non hanno preso un cassè, senti, magari io tu che sei un cassè, un'aspirina. Ascolta, gente che piangeva, gente che ha tentato di suicidarsi perché ma deficiente. Ascolta, deficiente, ascolta, guarda, io ti dico una cosa, se tu continui, mia mamma si alza e se ne va, perché di processo l'ha già subito uno, hai capito? Ce lo dovrei dove allora, dove vado? Dove vado? Saranno anche calpestini. Dove vado? Sono cazzi miei, mi hai capito bene? Chi si aspetta che una domandina sulla neanche chiedere scusa alle persone che hanno certo che torno in televisione a vendere il Vaticano, d'accordo? Come il Vaticano? Faremo una trasmissione con quel Papa, come si chiama lì? Bergoglio, di Gioglio, con Bergoglio, d'accordo? Ma il Papa? Con il Bergoglio, Vanna Marchi torna in televisione, d'accordo col Papa? Io e il Papa! Ma non è vero! D'accordo! Lo abbiamo già deciso! D'accordo! Con i corvi! Io e i corvi! E tutti che volano! D'accordo! 800-24-0024 numero no, non gratuito! Costa soltanto 95 euro al decimo di secondo! 95 euro! Uno telefona al 98-00-24-0024 numero non verde un cazzo! D'accordo? Non c'è nulla di verde, nulla di gratuito con Vanna Marchi! Si è sentita male la Marchi. Ragazzi, però le cose sono molto serie. Qui in Italia c'è un signore che è stato condannato a più di 10 anni di carcere, ha fatto meno di 3 anni di galera, ha fatto poi pochi mesi presso una comunità di recupero, quella di Dommazzi, è tornato libero e adesso fa anche le serate in discoteca. Pare tra l'altro che abbia pubblicato delle foto su Instagram che non si può fare secondo quello che ha detto il giudice, perché non può fare attività social, non può fare interviste, eccetera eccetera. Questo signore si chiama Corona. Ragazzi, viva l'Italia, viva la giustizia italiana. È con noi Lele? Sì, pronti. Come andiamo? Bene, bene. Sono qua davanti al caminetto di casa mia che mi faccio la calza. Ti fai la calza? Come la calza? Scusa. Non c'è altro da fare, tesoro, faccio la calza. Come non c'è altro da fare? Non c'è... Sono diventato una befana, oramai faccio la calza. Tesoro. Mamma mia, mamma mia. Ma quando io ti squilla il cellulare c'è il nome Giuseppe Cruciani, cosa provi? Amore, un orgasmo che non lo ce l'ho più da tanto tempo. Anche. E vabbè, sai, quello... Sei l'uomo più figo che possa conoscere sulla mia vita. Adesso, prima c'è Renzi, poi vieni tu. Per no, ma mi dicono che ti sei innamorato di un altro politico, però Renzi l'hai già detto mille volte. È da quello noi, con la barbetta dei Fratelli d'Italia. No, che Fratelli d'Italia? Quale Fratelli d'Italia? 5 Stelle? Che Fratelli d'Italia? Ah, di 5 Stelle. Ma chi dici? Chi? Il firmamento. Ma chi dici? È uno molto carino, tu che conosci tutti i politici. Ma che è Di Battista, dici? San Giovanni di Battista, lasciatamelo stare, non toccatelo. Ah, ti piace Di Battista adesso? Di Battista è l'uomo più figo che abbiamo in Parlamento in questo momento. Ma non era Fratelli d'Italia, era 5 Stelle, un po' diverso. No, l'ho fatto apposta. Ah, ecco, Di Battista ti piace da morire, Di Battista, te lo faresti subito. Di Battista subito. Lo metterei al posto di Renzi, giuro. Mollo Renzi per Di Battista, butto giù Renzi dalla dal tuo prendi Di Battista. Tra l'altro è un po' più giovane, credo, di Renzi. Renzi, per carità, è un giovincello pure lui, però Di Battista è abbastanza giovane, poi belloccio, piace con la barbetta. Però ricordati che mi piaci sempre tu, numero uno sei sempre tu. Vabbè, ma me. Quello sono io, non sono bello, però... è impossibile. Beh, no, è impossibile, se non esageriamo. Vi lascio solo. Tra l'altro il padre di Di Battista è super fascista, lo sai, no? Ma io non sono fascista, sono mussoliniano. No, ma anche lui è mussoliniano. Anche lui è chiariamo bene le cose. Qua mussoliniani è una cosa, fascisti è un'altra. Tu sei mussoliniano, mussoliniano, sì. Una cosa vecchia, io... come Cucca ha detta più volte. È vero che hai quanti busti hai di Mussolini a casa? Ma una trentina oramai. Ho come una trentina? Tanti... Una trentina oramai, sono aumentati. Hai 30 busti di Mussolini. Attenzione che qui arriva una legge che non si possono più trafficare, non si possono più comprare. Ma io mica li traffico, me li regalano. Cioè, tu hai 30 busti di Mussolini. Io non posso comprare niente, non c'ho un euro. Faccio le calze. Ma in banca quanto hai, Lele? Se vuoi ti mando la copia al mio conto corrente. No, ma in banca, materialmente. Poi in Svizzera ci avrai i soldi, vabbè, lasciamo ma bene. Che Svizzera, magari tesoro, così ricco. Ma in banca quanto hai tu nei conti italiani? Tuoi? Nei conti italiani c'ho, penso di avere 15 euro. Beh, vabbè, 15 euro. Amore, prendo uno, mio figlio non è che mi dà tanti soldi. Cioè prendi uno stipendio da tuo figlio, diciamo. Esatto, io sono affidato a mio figlio. Io lavoro da mio figlio. Senti, ma Corona che può fare quello che vuole, fare le serate, andare in discoteca, che te ne sembra, dai? Dimmi la tua, dai. Essere sincero? Sì, sincerissimo, come sempre. Ma qualche santo in tribunale. Ah, beh, sì, certo. Senti, se io faccio una pipì fuori dal vaso alla Gatta d'Italia, Corona, io gli voglio bene a Corona e gli auguro il meglio. Niente contro di lui, certo, niente contro niente di lui. Però lui. Dovrebbe farsi qualche puttonina in meno, perché sennò tutte le settimane fa il botolino lì da Dario Bertossi. Prima non so più perché non va più da Urtis, però avrà litigato con Urtis, che ti devo dire. Gattaci, Covaci, Covaci, la gatta c'è qualcosa. Cioè ha cambiato chirurgo estetico, dici? Ha cambiato chirurgo. Cioè, comunque chirurgo. Lei fa tutto tranne che il recluso. Adesso tra l'altro è anche libero, farà i servizi sociali ogni tanto. È stata una farsa questa cosa, o no? Purtroppo io no, tesoro. Io sono ancora in affidamento, faccio tutte le mie cose, faccio. Però tu dici perché ha qualche giudice in paradiso? Che è successo? Non so, uno che ha 14 anni da scontare, o un bravissimo avvocato, o qualche giudice in paradiso. Poi qua, devo stare zitto, sono in affidamento, non fammi parlare. Ti conviene a te cambiare avvocato, allora? No, i miei avvocati sono bravissimi, mi hanno dato le cose perfette, giuste, lui è Corona, c'ha la corona in testa. Cioè tu dici che alla fine tutta questa mobilizazione che c'è stata, un po' di cose eccetera, tu sei stato messo in croce, invece lui... Si è mosso Celentano, si è mosso Benigni, si è mosso non so chi, si sono mossi tutti. Senti, tutti com'era quando stavi con... Io sono sempre stato curioso, il sesso con Corona, com'era? qua vai a toccare una cosa, non lo so. Mai fatto sesso, mai. Beh, come mai, dai. Come mai? Qualcosa succedeva, altrimenti eri innamorato così, allora, no? Un amore virtuale era con Corona. Ascolto, il mio dolce, meraviglioso Cruciani, tu sei il più gran figo che ci Vabbè, sia. Adesso basta. Se devo fare del sesso lo faccio con te. Con Corona c'erano solo coccole, carezze, baci. Baci in bocca però. Cosa c'entrano? Dalle senza lingua i baci. Con la lingua. Baci con la lingua. Mai qualcosa di sessuale, mamma mia, con Corona. Niente, E poi chi è che non vorrebbe baciare Corona oggi? Dimmi. Ma io, francamente. Fai un sondaggio. Beh, sì, molte donne vorrebbero baciarlo, sì, però. Anche tanti uomini. Io ho sentito tanti uomini che volevano baciare Corona. Sì, questo è vero. Fermi tutti che c'è il traffico, poi torniamo con Lele Mora, che non mi pare molto incazzato per la liberazione del signor Corona. Per me è uno scandalo pazzesco. Oltre 10 anni di condanna, meno di 3 anni di carcere, non auguro il carcere a nessuno, però è evidente che c'è una disparità rispetto ad altri. Il traffico è il problema. Autostrada Pedemontana, la prima e unica senza caselli. Scoprila su pedemontana.com. Vi presento La Zanzara. E che cos'è? Che è un bel ambiente. Ambiente di maiali. Allora, con noi Lele Mora da casa sua, circondato da busti di Mussolini. Corona è uscito dal carcere, lui è libero. il vecchio mondo vive e lotta insieme a voi, caro Parenzo. Io voglio dire, dice di essere innamorato di Renzi, ma in realtà gli piace anche Di Battista. No, gli piace Cruciani, ma Cruciani, vabbè, sì, Cruciani come. Mi piace Cruciani prima di tutti, prima questo di tutto. Vabbè, da questa è. Senti, ma hai sentito di Berlusconi che praticamente si è lasciato con la Pascale, anche se lei poi nega, ma fa un in ritardo sulle notizie, sono già 10 giorni. Sì, ma no, 10 giorni, 2-3 giorni in realtà. No, le valigie sono partite tesoro da un po' di tempo. Sì, d'accordo, per carità, lo si sapeva, però ufficialmente Berlusconi ha detto sono tornato single, ha fatto pure una battuta, adesso mi sposo un milionario perché ci saranno i matrimoni gay. Ma io voglio dirti, finalmente sarà la volta che lo avrà più processi, e poi non avrà più, una volta si chiamavano, come le chiamavano una volta, prostitute, prostitute, poi, sì, oggi non più, cioè non avrà più prostitute intorno, si chiamano escort, no, come ne avrà? Magari da single ne avrà di più. La Volkswagen è andata in crisi, ma va di moda l'escort. Senti, qualcuno ieri ha detto, non mi ricordo dove, in qualche trasmissione, che Berlusconi alla fine, un ex Berlusconi, ha detto che lui è un puttaniere. Tu come lo definisci? Ma è un gran signore, perché se le ha pagate tutte, come dicono, è un gran signore, non è un puttaniere. Poi, prima di tutto, pagale in natura, pagale in soldi, pagale in cortesie, pagale in piaceri, pagale come vuoi. Ma sempre pagava, poi, dici? Insomma, poi bisogna vedere. Ma io non ho capito, non ho capito una cosa, Lele. Ma secondo te, lui è ancora in politica, eccetera. Tu che pensi di questa cosa? Guarda, io adesso torniamo a fare i seri, perché è una cosa seria. Gli argomenti che stiamo trattando, poi quando si parla del mio ex cavaliere, qua metto una mano sul cuore, perché io sai che lo adoro. Vabbè. E lo rispetto. Io dico solo che è stato fatto un gran cancan per poco niente, ora della fine lui è assolto, io sono ancora. No, però la politica che deve fare? Deve rimanere, non ma deve no, rimanere. No, basta, basta, si goda la vita che ora che cioè si deve ritirare dalla politica. Ma in pensione anche lui, insomma. Ma no, la pensione ci vanno quelli anziani, lui è giovane ancora. Cioè giovane, smetta, vinto, di far politica, smetta di far politica. Io gli consiglierei di divertirsi, sta bene, ha tante cose belle. Sì. È un uomo che, ma prima di tutto dovevano farlo dal Presidente della Repubblica. Vabbè, per ma quella è una roba vecchia. Ma la Pascale che si è, la Pascale che se n'è andata, lui si è liberato di un peso, si è liberato di una che controllava ogni passo della sua vita, o no? Ci sarà stato un perché. In che senso? Se lei lo controllava, ci sarebbe stato un perché. Ho capito, ma perché? Ora lo sapremo. Ora andremo a vederlo. Ora troveremo il perché. E te lo dirò molto presto. Cioè? Non ora, però. Ma non ho capito. Ma tu l'hai conosciuta mai bene sta Pascale? Sì. Ma magari l'ho vista così di sfuggita, non mi ricordo. Ma non ho capito, ma veramente lo controllava, lo marcava strettissimo, come dicono. Guarda che credo sia successo anche di più. Cioè? Ma dicono che sia anche un po' manesca, non lo so se sia vero. Vabbè, sì, questa è una cosa che dicono, ma tu la confermi? Cioè lei lo io non c'ero. Ogni tanto lo menava. È dal 2009 che non vado più ad Arco, 2010 non mi ricordo, 2009, dunque non posso sapere, non so se lo menava o glielo scusami. Non siamo nell'ora protetta, scusami. Però torniamo a noi, abbiamo affrontato un argomento molto importante. Qual è? Corona. Allora che vuol dire ancora su Corona? Non ha più il tiraggio di una volta. Che vuol dire? Allora, prima quando si muoveva tirava molto. Ma tirava cosa? Forse gli tirava col, dicono alcune persone, io non ho provato, ma gli tirava col Viagra. Non ho capito. Sei. Non ho capito che faceva. Gli tirava, ecco perché adesso non gli tira più e fa le serate. Beh, non ho capito, però spiegati bene, sennò la gente non capisce, dai. Allora, scopriamo un po' di carte che è giusto. Allora, lui è un sex symbol, però i sex symbol di solito trombano. E poi tromba poco, tromba tanto, tromba più. Cioè faceva uso smodato di Viagra. Bravo, una sera si è sbagliato, perché doveva trombare una che si chiamava un'ex sua fidanzata, non facciamo nomi ma solo i cognomi, Rodriguez. E lei non gliel'ha data. E lui si è presentato in una trasmissione che aveva tutto a fare gonfio e non si sa cosa sia successo. Ma però... questi sono episodi così epici, ma... quasi. Episodi. Ma adesso risolviamo questo enigma, amore. Quale? Perché, amore mio dolcissimo, quale? Perché a lui gli danno tutte queste possibilità, perché? Perché? Di andare di qua e di là, io poverino qua chiuso. Beh, poverino chiuso, no, perché? Perché non lo so, non lo so, te lo direi se lo sapessi, sai che io non sono uno che non dice le bugie, dico solo la verità. Ma quanti soldi hai perso con Corona? Hai fatto un conto tu, più o meno? Quanto ti è costato? Dei regali, cose, allora, eccetera, eccetera. Fammi un calcolo. Una cosa che si fanno col cuore, li ho fatti veramente... Vabbè, d'accordo, ma quanto hai perso? Quanti soldi ci hai rimesso, più o meno? Facciamo un 10 milioni di euro, dai, per essere un conto tonto. No, 10 milioni, cioè con Corona ho perso 10 milioni di euro. Ma 5 più, 5 meno, euro. Sì? Mamma mia, pure questi soldi, che cos'è che ti ha chiesto ultimamente? No, ultimamente io non lo sento dal 2009. Vabbè. Ho chiuso i rapporti affettivi, lavorativi, sentimentali... L'unica cosa non c'è stato sesso tra di noi, grande amore, lo diceva anche Oscar. Solo baci in bocca. Vabbè, sì. Ragazzi, risolto questo arcano, ci sentiamo dopo. 800 24 00 24, vai. Pungete, ciao. Ciao, sono Enrico Ruggeri, anche questa settimana grandi storie a Il Falco e il Gabbiano. Umberto Bindi, uno dei più grandi cantautori italiani, dimenticato ed emarginato per la sua omosessualità, raccontato assieme a me da Red Ronnie e Gino Paoli. Vantaggi e svantaggi di una grande famiglia, la storia di Liza Minnelli. La mafia e il crimine che danno spettacolo, la storia di John Gotti a Little Italy. Sfruttare i propri mali e quelli altrui per dare la scalata al successo, la conduttrice americana Oprah Winfrey. Il leone d'Africa e il calciatore più longevo della storia del calcio, Roger Miller. Tutti i giorni alle 15:30, naturalmente su Radio 24, vi aspetto con Il Falco e il Gabbiano. Ok Google, imposta sveglia, Il Falco e il Gabbiano, 15:30. Il segnale orario vi è offerto da... Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Stufe e caldaie Termo Rossi, una promessa di calore per un amore di casa. Vi presenta La Zanzara. Allora ragazzi, un ascoltatore dall'Ohio ci segnala che nel civilissimo Ohio, così dice Marco Coppa, si vota domani, cioè il 4 di novembre, per legalizzare la marijuana, quando da noi purtroppo, caro Marco, credo mai, anche perché non ci sono referendum propositivi, non esisterà mai la possibilità di votare per la legalizzazione della marijuana. Bisognerà che lo decidano i politici, cioè non accadrà mai. Allora, un povero veterinario torinese che si chiama Luciano Ponzetto di Caluso ha avuto l'idea piuttosto bizzarra, ma assolutamente normale, di pubblicare una foto su un sito di Safari, di una foto di lui col fucile in mano con un leone. Un leone appena ucciso, perché ma ragazzi, da lui, no? Sì, certo, da lui. Ah, lui l'ha ucciso. Sì, sì, l'ha ucciso lui. Ma a caccia, è uno che fa safari, è tutto legale, cioè non è una cosa contro, non è un bracconiere, cioè, non è uno che caccia a frodo. È uno che è andato, e non so dove. Ha esibito il suo trofeo. Sì, ha esibito in una non sul suo profilo Facebook, sul profilo di un Safari Italian Chapter, una foto con lui col leone. È stato massacrato. È un veterinario, abbiamo provato a chiamarlo nel suo studio. Sentite quello che è uscito fuori, Sì, cercavo Ponzetto. Non lo trova. Non lo trovo, sono Cruciani, salve, buonasera. Sì. Sì, cercavo Ponzetto, Luciano Ponzetto. Non c'è, dove lo trovo? Non lo trova. Non lo trovo. No. Ha paura degli animalisti, signora, non ho capito. Che due coglioni, veramente. Buonasera. No, scusi un attimo, ho paura. Ma scusi, io non sono animalista, eh? No. No. No, non sono affatto animalista, perché le stanno rompendo le palle. Io sono dalla parte del signor Ponsetto, si figuri un po'. No, ma io lei non, no, ma lei deve capire che, cioè, abbiamo ricevuto delle telefonate che lei non si può neanche immaginare. Che tipo di telefonate, mi scusi? No, me lo dica, perché sono tutti i tipi, e delle peggiori. Cioè minacce, pezzi di sì. merda, cose di questo tipo, insulti. Sì. Ma minacce anche di morte? Sì. Ma veramente? Sì. Una cosa incredibile. Mamma cioè. Mia. No, siamo con Crucciari e Parenzo della Zanzara, sulla radio. Salve. Con chi sto parlando, scusi? Allora, sono... prima era Cruciani, io sono Parenzo, siamo di Radio 24. Di cosa siete? Siamo di una radio, signora, però non mi faccia innervosire, di una radio, Radio 24. Non è Animalisti, è una radio, Confindustria. Questi sono terrorizzati, No, ma si capisce, poverino. Sono terrorizzati perché la gente gli rompe i coglioni. Cioè, uno non può nemmeno postare una foto che va a caccia con un leone ucciso, che questi animalisti... sono le 19:21, non mi fare parlare. Questi animalisti del cazzo, lo voglio dire, rompono le balle. Uno ha tutto il diritto di andare a caccia al leone. Io non ci andrei. La gente ha tutto il diritto, seguendo le leggi, di andare a caccia di leoni. No, ma stava delle minacce, brutta. Ti voglio presentare, caro Parenzo. No, ma la foto del giorno, sai qual è? Qual è la foto del giorno? È quella della regina Elisabetta, sì. che ha 89 anni, dico 89 anni. Tu sarai rincoglionito a casa con la prostata ingrossata, eccetera. Ma io spero di arrivarci a 89. Ma non ci arriverai, infatti. E lei è a cavallo, a proposito degli animalisti. Vabbè, a cavallo. E passeggia delle... A cavallo, 89 anni. Vabbè, a cavallo. Se sta bene, vai a cavallo. Se stai bene, fai tutto. Trombi, vai a cavallo. 89 anni, salire su un cavallo. La regina, magnifica. Vabbè, ma c'è tutta la servitù lì. C'è tutta la servitù. Delle sue tenute. È una cosa. Ma cos'è che ti stupisce? Non ho capito. Ti stupisce, va a cavallo la regina, 89 anni. Se è efficiente, va a cavallo. Che ha 89 anni, la regina. Cazzo, 89 anni, ragazzi. Oh, 89. 8-9. Vabbè, 89 c'è gente ma che. Siamo in diretta? Sì, sì, certo. Pensi siamo in che questa cosa non interessa a nessuno? A nessuno. Penso a nessuno. Al posto tuo a Roma, in studio, c'è Mario Pappagallo, da me soprannominato Pappagallo Kid. Buonasera. Ciao ragazzi, Emilio, Mario è mio padre. Sì, scusa Mario, non so perché, caro. Cosa fa Pappagallo? Non so perché Mario... Beh, grande Emilio Pappagallo, conduttore mitico di Radio Rock la mattina, che è venuto a trovarci per fare un po' di casino, per allegrare la... Dopo mi devi far dire una cosa sugli animalisti, No, no, tu puoi dire... A favore degli animalisti, subito. Come a favore degli animalisti, scusa. No, perché stavo pensando una cosa, no? Allora, tu ti metti la foto del leone, no, per carità, puoi fare quello che vuoi, ammazzi il leone, però... ammazzi tutta, però ti metti la foto e poi te lo devi aspettare che ti arrivino, cioè, le minacce. Se tu metti lo sai la foto, la foto sai. Su Facebook di un leone ammazzato, appena ammazzato, ecco, tu ti fai una bella foto poi con, leone, no? con la testa del leone, poi te la tieni in casa, ti fai un quadro, fai vedere agli amici, ai parenti, perché la devi mettere su Facebook? Cioè, la puoi anche mettere è una su provocazione, poi non rompere i coglioni se poi ti fanno minacce di morte, roba del genere. Di morte no. Però tu però un po', però ci può stare anche, ci può stare. Io mi incazzo con quelli che minacciano. Cioè, fa parte dell'ordine delle cose, cioè fa parte, cioè, di quel quadro. Se tu cacciatore, lì, gli animalisti sappiamo come sono, quindi, se insomma, tu cacciatore prendi questa foto, la piazzi su Facebook o su internet, e poi ti puoi aspettare anche le minacce di morte, e in qualche secondo modo sì. te lo meriti. Beh, o no? No, no, questo beh, no. Te lo meriti, non lo so, però non puoi rompere le scatole se poi ti perché lo sapevi, cioè lo sa, non è la prima volta che accade una cosa del genere, quindi vuol dire adesso che tu vai a piangere, dici "ah, però mi hanno minacciato di morte", e allora la mettevi cazzo. La foto e basta, no? Che era il problema. Senti, ma che ti ha colpito oggi, Emilio? Rovistando, no, mi hanno colpito varie cose oggi. Beh, bellissima questa immagine, però, di David della regina a cavallo, 89 anni. Non ce ne frega niente. Ma, ma anche a lui sei la seconda. Un'immagine leggiata, la devo brava, dire. Una ma l'hai bellissima... vista col foulard. Voglio farmi un quadro. Vabbè, ma sì, guarda, no, che è un'immagine meravigliosa. Vabbè, poi la regina Elisabetta, tra l'altro, non è una brutta donna, secondo me. E anche la Merkel, non sono male, secondo me. Va vista da un certo punto. Tu sei un perverso, ma sei un malato mentale. Merkel nuda a cavallo. Io pagherei oro. Mi dispiacerebbe per il cavallo, nuda a cavallo. La Merkel sarei nuda... preoccupato, ma per sì, il cavallo, ragazzi, ma siete veramente peggio di me. La Merkel quei film erotici che facevano negli anni tipo 70-80, tipo Emanuele, quei film là, no? Sì, però non c'era la Merkel, lì c'erano delle bellissime Amazzoni, non sì, c'era vabbè, ok, vabbè, però vuoi mettere, scusa, le abbiamo viste e riviste queste Amazzoni, no? Invece la Merkel nuda a cavallo, quelle scene, sai, tipo Badedas, no, si può fare pubblicità, Badedas che si va sul ma là sul ci cavallo. Sono delle fighe pazzesche di solito, non la Merkel. Però cioè, la Merkel, secondo me, poi sotto, perché poi tu mi insegni caro Giuseppe, che non è importante quanto sei, perché belle donne ce ne sono tantissime. Ah, non è la qualità, è la quantità, dici tu. Il contrario. Per Cruciani. Cioè, non è importante la qualità, esatto, la quantità. Esatto, esatto. Cioè, tu devi trovare la donna che con la mente aperta. E la Merkel, secondo me, a letto è una con la mente aperta. Comunque, vabbè, butto lì così. Poi voi vedete, ipotesi di lavoro. Certo. Ipotesi di lavoro. Davide da Trento, vai, Davide da Trento. Quasi lavoro è forte. Davide, dimmi. Ciao Cruciani. Vai. Io il 14 di agosto, mentre ho letto, alle 22:30 ho sentito il mio cane abbaiare, sono sceso in giardino, ho trovato due individui che mi stavano scardinando il garage. Sì. Uno è scappato, uno l'ha preso da dietro, gli ho dato un paio di pugni che mi sembrava il minimo, e l'ha buttato con la testa contro il cancello. Bene. Sì. Ho chiamato i carabinieri. Alla fine, dopo una settimana e mezza, mi hanno notificato una denuncia per aggressione a me, e al ladro non è successo niente. Il ladro me lo sono trovato la settimana scorsa fianco a fianco a mangiare la pizza. Non ho capito, Davide. Allora, riassumiamo la cosa, riassumiamo anche perché va spiegata bene. Allora, tu hai subito una rapina in casa. C'erano due signori che sono entrati. Dove sono arrivati? Due signori albanesi sono arrivati dentro il giardino di casa mia. Mi hanno rotto il garage e volevano portare via l'auto. Quando sono uscito, uno è scappato, l'altro ha fatto ora a rincorrerlo, a prenderlo, nel trambusto un paio di pugni sono scappati, l'ho lanciato contro un cancello e si è aperto un po' la testa. Gli è andato 10 punti in testa, ma gli sta bene, sta a casa sua. E mia moglie ha chiamato i carabinieri, ha chiamato l'ambulanza, tutto, i carabinieri, sembrava tutto tranquillo. Dopo un po', dopo 8 giorni, di precisione, mi hanno notificato una denuncia per aggressione. Ma è l'Italia, purtroppo, questa denuncia per aggressione, se lei dovrà trovarsi un avvocato, pagare, eccetera, eccetera. Io ho già il mio avvocato che mi sta difendendo, e io è dal 18 di agosto, da quando mi è arrivata la notifica, che mando tutte le mattine una mail e una raccomandata che ho ricevuta di ritorno al Ministero della Difesa. E che scrivi questa roba? Ma che c'entra il Ministero della Difesa poi, scusa? Al massimo il Ministero della Giustizia o degli interni, che ne so. Perché vorrei un incontro con chi gestisce le forze dell'ordine, perché io ma non è la difesa, ti voglio sottolineare che non è ci sono i carabinieri, però cioè, al massimo al Ministero degli Interni. No, ma fai bene a scrivere tutte le lettere del mondo, non troverai risposta, perché non alla Marina militare, nessuno ti risponderà mai. Ma però... è inutile che quello dietro di te, tu sei una gran persona, Cruciani, tu non devi mai andare in politica, perché tu sei veramente voglio fare la lista Zanzara, non è entrare in politica, darò la benedizione alla lista Zanzara. Anche io sarò estraneo. Ma i corvi si possono candidare, ad esempio. Ma sei il numero uno, veramente. Vabbè, Davide, allora, però perché... non è un'Italia giusta questa. Ma non è più un'Italia nostra. Ma cos'è non che cioè, io non ho capito che cos'è che non ti va bene? Il fatto che abbiano aperto un procedimento contro di te. Questi possono fare tutte le denunce che vogliono, dovrebbe essere archiviate dopo due secondi le denunce di questi signori. Evidentemente ti vogliono accusare di eccesso di legittima difesa, perché gli hai spaccato la testa a questo qua, no? Immagino. Si sarà ferito. Che si è fatto sta albanese? E io che sono a casa mia non mi posso difendere. Io l'ho detto anche ai carabinieri, io uccido, io d'ora in poi a casa mia io uccido. Ma che c'è? Le armi ce l'hai per uccidere o no? No, perché mi hanno tolto anche, io ho il porto d'armi, mi hanno tolto il porto d'armi perché adesso ho una denuncia per aggressione. Eh beh, certo, te l'hanno tolto adesso? In automatico scatta quando hai la denuncia. Io uccido però. Io uccido. Era il titolo, Emilio, che cos'era il titolo di Faletti, no? Sì, sì. Era anche un film. Io a casa mia, perché io devo difendere mia moglie, la casa mia che io ho pagato e mia moglie, io li devo difendere. Beh certo, allora, è normale. Io uccido, e questo non questo è si più è capito, Italia. Ma questo l'abbiamo capito, l'hai ripetuto 40 volte. Io uccido, altrimenti sembra una cosa finta. Sì, o forse perché non abbiamo più, e noi viviamo a Trento, dove tutti pensano che sia una città tranquilla e serena. Invece... siamo nella giungla più totale. Comunque, sai che c'era a cavallo Bo Derek, Emilio? Bo Derek a cavallo. Ma vuoi Bo Derek con la Merkel? Non c'è proprio paragone. Cioè tu ti faresti la Merkel e non Bo Derek. Ma la Merkel, secondo me, ti dà grandi soddisfazioni a letto. Poi adesso sei fissato con questa cosa. Guarda, io non riesco a uscire. Pappagallo Kid. Ma una bella voce. Chi? Mi piace Pappagallo Kid. Beh, in che senso? Bo Derek, lui è una posso dire una cosa sulla voce calda. Calda. Devo dire anche cose non credibili, ma con questa voce diventano credibili. Lo sai, volevo dire una cosa invece. Io sono d'accordo più su David, con David, sulla storia. Ma del perché siete di sinistra, è un avete questa cultura sinistroide che le armi vi fanno schifo, dai. No, allora io le armi non ho mai toccato un'arma in vita ma mia, ma sì, vi fa schifo l'America che spara, tutti questi pregiudizi, l'America. l'autodifesa, però, vi sta sulle palle, pensate che sono tutti dei pistoleri. Perché in non possiamo accettare di farci rapinare? Cioè, perché non possiamo accettare che nella però vita... questa cosa qui bisogna accettare di farsi lapidare, cioè, ti scortico su questa roba qua. No, scusa. Ti faccio nero, aspetta ci un attimo. Sono anche i ladri. Fermo lì. Sì, bravo, certo. Brucida. State ascoltando un programma offerto da Stazioni di servizio Costantin. Se ti fermi, ti conviene. La Zanzara. Dai, ma per favore, ma Cruciani, ma questa è follia, ma qua siamo alla follia più totale. Allora, credo ieri da Del Debbio c'è stato uno scontro pazzesco. Dal professor Del Debbio. No, da Del Debbio. Dal che professor Del Debbio. Ma quale professore? Sì, professore. Debbio, vabbè, da Del Debbio c'è stato uno scontro tra un avvocato che è l'avvocato di un signore il quale ha preso 17 anni, un contadino siciliano, e 600.000 euro di, che non pagherà mai ovviamente, di risarcimento per aver ucciso un signore che si era introdotto a rubare delle galline nella sua, nel suo orto, nei suoi campi. Quello si è presentato con la carabina e ha sparato. Signor Caruso, signor, preso 17 visto, anni visto. Avvocato Lipera, meraviglioso. Poi vorrei dire una cosa a quel signore là che dice che ha chiamato i carabinieri, io non so in che pianeta vive. Qua, alle mezza della notte, realtà siamo e mi faccia parlare, ma parla sempre lei, ma faccia parlare. Non c'è niente di questa storia. Mamma mia. Mi dia la possibilità di parlare. Ma dico, ma l'educazione ce l'avete lì? Dai. Mi faccia dire come stanno le cose. Ma stia calmo. Allora, ma c'è la coda di palca, allora, in quel campo dei miei stivali. Ma si vuole stare zitto un attimo. Ma possiamo parlare? Parla sempre lei. L'avvocato Lipera, effettivamente difendere questo signore è arduo, però francamente mi sento di difendere. 17 anni per aver sparato a un ladro, certo, un rubagalline, come si dice, uno che era andato lì a rubare, ma è gente che usa il fucile anche abbastanza facilmente, però 17 anni. Hai detto la parola chiave, usa il fucile abbastanza facilmente. Ma ho capito, this ma posso... This is not my country. Vabbè, ma ragazzi... This is not my country, your country is the United States of America. Può essere, in alcuni casi sì, in alcuni casi sì, in alcuni casi sì. Librandi contro Giordano, Mario Giordano, sentite. Grande classico. Sono andato a rubare le ciliegie. Tu non sei mai andato. Sei una legna se non sei mai andato, no? Capisci? Io sono andato e ho rischiato di farmi ammazzare da uno così. Cioè, mi tocca difendere pure questo che ha preso 17 anni e 600.000 euro. Cioè, lo sei obbligato. Ma lo difendo. Non sei obbligato. Lo difendo. Non ho capito che cos'è quella roba che hai detto prima, Emilio? Pappagallo lasciamoci Kid? Lasciamoci rapinare. Cioè, il discorso è questo qua, no? Vedi che come si, lasciamoci che si rapinare? Come? No, ma si collega al discorso che abbiamo fatto prima di quello che ha ucciso il leone e anche, secondo me, con la Merkel nuda a cavallo. Cioè, perché no, tutto non c'è un... nessun collegamento tra no, queste due cose. Perché comunque il principio di realtà, cioè, esistono i ladri. Allora, se noi dicessimo, non dico che non ti devi dare fastidio, però se noi dicessimo, ok, allora, un conto è la sicurezza, la salute, del, no, la sicurezza dei nostri cari, quello è un altro tema, vabbè, lì allora ci deve pensare lo Stato, vabbè. Però se ci sono delle un ladro entra in casa, ti ruba il televisore, vabbè, te lo ricompri, dai, ma che... Cioè, ma entra, no, vabbè, ma io ti ammazzo, ma io ti scortico se vuoi rubarmi il televisore, ma io ti picchio, io ti... Ci sta, devi mettere in conto, tu paghi le tasse, ok, beh, paghi sì, il, meno, sì, certo, il 20, il 30, il 40, il 50, e poi ci sono tassa ladri, devi pagare i ladri, ci sa, campano. Ma uno, ma ho capito, ma se uno entra dentro casa mia e poi io faccio secco, sarà un problema suo che è entrato o mio che ho sparato? No, tuo che hai sparato. È mio che ho sparato. Tu che hai sparato, perché lo sai, ragazzi. È come quello lì che ha sparato a Leo, tu lo sai che se spari poi dopo te, poi può non dispiacermi, può aver fatto, può essere comprensibile, già, però non è così, non puoi rompere così le balle, perché poi ti aggrediscono gli animalisti. Bah. Alberto da Treviso, dai Alberto. Ciao Cruciani, grandioso. Allora, dimmi. Rispetto per Parenzo, però Cruciani un altro. Prima. Vai, dimmi. Seconda cosa, la musica che metti era numero uno. Vabbè, dai, cosa, basta con questi complimenti. Andiamo avanti. La terza cosa più importante: facevo un pensiero stanotte mentre non dormivo, ma i vegani che non mangiano proteine, quindi carne, nel sesso orale, ecchi, si contiene vecchia questione, già sentita. Vecchia questione già sentita, vecchia questione. Esatto, io non l'ho mai forse sentito. Pappagallo Kid ha una risposta anche a questo. L'idiota deve sempre chiamare, dice, no, ma perché idiota? Si è posto una questione fondamentale, Alberto, cioè. Ma perché, qual è il problema? Scusa, gli spermatozoi, questo qui è il discorso? Beh, diciamo le proteine animali dentro. Vabbè, mica li ammazza però, se li mangia, cioè, voglio dire, poi sono nutrienti. È una questione controversa. Alberto, io non ho capito perché ti è venuta in mente questa cosa che Parenzo dice da idioti. No, l'idiota, non lui. Nello, cioè, ti ha dato, intanto ti ha dato l'idiota. No, Alberto, ho detto l'idiota del 1938. Prima rispetto per Parenzo, attenzione, sì. Rispetto. Uno che pone una domanda simile potrebbe essere definito, però, tranquillamente, vedi, questo fa il gioco dei vegani, secondo me, questo tema qua, cioè quando cominci a dire però loro che fai, poi si bevono, cioè fai il gioco, allora non ti piace essere vegano, non essere vegano, cioè, però il vegano non deve rompere i coglioni, però cioè, che dirlo, no, cioè andare noi a sindacare, facessero quel che vogliono, cioè non vogliono mangiare carne, uova, insomma, niente, vuoi mangiare nulla, respiriano, com'è quello lì, il respiriano. Spiridiano e facessero quello che ragazzi pare, ma però. Lo sapete che il comune di Napoli ha denunciato Giletti? Cioè il comune di Napoli, e dico io, il comune di Napoli ha denunciato, chiede i danni a Giletti e forse anche alla Rai, cioè per quello che ha detto Giletti. Siamo veramente alla follia. Corrado da Napoli. Corrado, pronto? Dimmi, vai. Buonasera, senti, ti volevo dire una cosa. La vendetta è un piatto che si serve freddo e glielo stanno servendo a De Magistris. De Magistris, prima di fare il sindaco, ha fatto tremare i potenti. Adesso l'altro giorno è partito Giletti, adesso partirà la Barbara D'Urso. Vogliono massacrare De Magistris e cercano di massacrare Napoli. Okay. Napoli non è come la racconta Giletti, Napoli è come l'ha vista Parenzo quando è venuto per la settimana della cultura. No, guarda, Corrado, Giletti ha detto una cosa molto semplice, che alcune zone di Napoli sono degradate, che la città è amministrata male e che usciti dalla stazione di Vicoli sono piene di immondizie. Ma scusa un attimo, allora, anche se quando hanno fatto la statistica come qualità della vita, per qualità della vita, uno che cosa si intende? Che a Napoli la mettono per ultimo, c'è una campagna denigratoria. Ma se vi piace così, ma tenetevela così. Chiaro, allora, chiaro, Filippo Facci, mondo, allora prendetevela anche con Facci, perché il comune di Napoli non cita Facci, non cita Libero in tribunale. Oggi Facci sulla prima pagina di Libero ha scritto una cosa molto semplice: Napoli fa schifo, in tutta Europa non esiste una città del genere, lo pensiamo anche noi, e quello della spazzatura è un problema storico culturale che nel tardo 2015 salta ancora agli occhi e al naso. Cioè Napoli fa schifo, in tutta Europa non esiste una città del genere, lo scrive Facci, cioè pigliatela pure con lui, denunciate pure lui, che ne so. Dove andiamo? Maurizio da Milano, vai. Pronto? Dimmi Maurizio. Sì, ciao, senti, allora, riallacciandomi al discorso di prima, Napoli, secondo me, Napoli così come Catania, così come Palermo, non possono essere considerati italiani. Cioè non sono Italia secondo te? No, perché... Cioè è terzo mondo, che cos'è? È un altro paese? Esatto, paese quasi nordafricano. Ci sono altre leggi, ci sono altre... Esattamente, perché basta che esci dalla stazione ferroviaria e vedi gente senza casco, vigili che li guardano, che fanno anche due chiacchierate. Beh, è così, cioè le leggi in Italia dovrebbero funzionare per tutti. Dico bene? Cioè, poi vedete voi. Sì. Sì, no, no, ma evidentemente lui dice che non è Italia direttamente. Dice che non è Italia. Scusa, ma se vigili, carabinieri, tutto quello che vuoi, sono conniventi con questa cosa qua. Sì, ma adesso non è che sia così generalizzato. Ci sono molte zone dove non c'è il casco, eccetera, dove la legalità. Il 99% che non ha il casco. Ma per il casco, per dire, non, cioè, se parli con qualcheduno, sì, qualcheduno l'italiano lo sa. Ma l'80% parlano in napoletano. Beh sì, a Napoli parlano napoletano, certo. Napoletano è una cosa, italiano un'altra. Ma ragazzi, non capisco questa polemica sul fa parte dell'Italia o non fa parte dell'Italia. Cioè, l'Italia è anche in questo. Italia sono delle regole. In Italia ci sono delle regole, stradali, per esempio. Se io per la mia città vado in giro senza casco, il primo vigile che mi incontra mi sequestra, non so cosa fare, la multa come minimo. Sì, ma quindi il problema qual è? Cioè un problema... Non è così. Sì, ma quindi Napoli, Palermo e Catania cosa hanno? Un problema genetico perché non mettono il casco? No, ma questo vuole dire, cioè Maurizio, cioè, che cos'è? Non è Italia, perché che problemi hanno? Cioè sono diversi da noi, sono culturalmente arretrati, sono... No, culturalmente no, ma... Hanno nel DNA l'illegalità, che c'hanno? Esattamente, sì, diciamo così. Ora diciamo non voglio offendere nessuno. Vabbè Maurizio, ciao. We'll be right back. Allora ragazzi, io proverei a chiamare quello che sappiamo, il signore che sappiamo col fucile. Proverei a chiamare il signore col fucile. O allo studio, o al cellulare. Sorriso in posa, fucile spalla, il leone appena ucciso. Ha ammazzato un leone in Tanzania, lo minacciano di morte. Vincenzo da Bologna, vai. Ciao Brittani. Dimmi, dimmi. Ascolta, volevo sapere dove hai letto delle due ricerche dell'OMS, quella lì sul mal di collo in inverno in motorino senza sciarpa. È l'università di Richmond, mi sembra, no? Pappagallo Kid, sì, vero? Massachusetts, California, tu, Richmond, Virginia. Noi se non sentiamo Massachusetts, Richmond, non ci sentiamo bene la mattina. Se non abbiamo la nostra dose di ricerche quotidiane dagli Stati Uniti, non ce la facciamo. Lì? Quell'altra lì sul gelato? Quella sul gelato era, credo, della Carolina del Sud. Sì. La Carolina del Sud. Ma cioè, qual è quella del gelato? No, quella del gelato è questa. È quella di ieri che ho trovato. No. No, è che se tu mangi ogni sera un chilo di gelato, potresti ingrassare. Questa è l'ultima. Ah, l'ultima potresti. La parola chiave è potresti. 200. Comunque, secondo me c'è uno che li scrive tutte queste qua. Cioè, c'è uno in una stanza, non so sì, dove. Che si inventa ogni giorno. In Norvegia, magari, che scrive all'università. Si inventa anche le università che non esistono. Beh, tutti questi argomenti. Però c'è una sulla birra bellissima. Poi dimmi quella sulla birra, Vincenzo. Come a me sembravano delle gran stronzate. Ma non sono stronzate, sono cose reali, sono cose vere. Ho cercato su internet, ho spulciato l'internet, non ho trovato di queste cose. L'abbiamo trovate noi perché ci arrivano le notizie in anticipo a noi. A te ti arrivano tre giorni dopo. Non troppo mi fido. Comunque volevo dire anche non un'altra troppo cosa. Mi fido. È bella la costruzione. Sì. La costruzione. Un'altra cosa. Tu parli tanto dei vegani che guardano male i carnivori, sì, che rompono loro il cazzo, che schifo, che è un assassino. Sì. Allora io sono stato vegano per un po'. Sei stato vegano, poi hai mollato però, mi sembra. Sì, ma non perché per una questione di non estetica, cazzate. No, ho mollato perché non alla fine ho ceduto, diciamo così. Aspetta un attimo, aspetta. Medico, rispondi, noi siamo con te, ti appoggiamo, certo, forse potevi evitare di pubblicare la foto, dice Pappagallo Kid, ma io non sono d'accordo, dice uno deve anche, Pappagallo. Ma certo, è molto simpatico, mi piace, no, ma la cosa no, incredibile, ma l'autore è giusto, perché dice Galli della Loggia, sì. Ma che stai scherzando? Vuoi mettere Galli della Loggia? Io preferisco Pappagallo Kid. Qui sono arrivati parecchi insulti, No, ma è per bello. Pappagallo Kid. In che senso parecchi insulti? Non lo so, qui c'ho un monitor davanti, messaggi sms 349-238-6666. Sono una marea di insulti per Pappagallo Kid. Penso Pappagallo. Che stai godendo come un pazzo. Cioè, così per parlò Zarathustra. No, Pappagallo Kid. Con noi dopo un po' di tempo, diciamo, l'abbiamo trascurato, però vive e lotta insieme a noi. Pappagallo Maurizio Kid, Maurizio Bianconi, okay, vai. Buonasera. Come andiamo? Molto bene. Dopo Pappagallo Kid, Maurizio Bianconi. No, ma smetti, la Parenzo, no, dai, perché... su. Lei sempre... conosceva il signor Bianconi, l'onorevole Bianconi, Pappagallo Kid? Cioè, il contrario, stai chiedendo a Bianconi se conosce Pappagallo Kid? Sì, perché sì. Ah, ok. Sì. È una Pappagallo mia... Kid, io non so chi sia. È una mia invenzione. Vabbè, è una sua lacuna? È una mia invenzione geniale. Il è l'uomo... signor Pappagallo Kid. Per esempio, Kid. Pappagallo Kid, no, è, l'uomo, è l'uomo che fa cantare i politici. Io lo vorrei tutte le sere, Pappagallo Kid. Beh, potresti essere accontentato. Io, perché Pappagallo Kid è ottimo, invece. Eccezionale. Tanti tromboni in giro. giro, ti sono, dici chi è che c'è oggi? Abbiamo il professor c'è Ricolfi, no, c'è il pappagallo Kid. Tu Bianconi, Maurizio, sai l'uomo che fa cantare ogni tanto i politici alla radio? Ma lei sa chi è? Pappagallo Kid, no? Sì, altrimenti sì, chiudiamo qui l'intervista. No, potrebbe essere Star Chiappone, potrebbe essere una cosa così. Sì, ma ci tu hai, hai una canzone preferita? Hai una canzone preferita, Maurizio? Azzurro, io Azzurro. Pappagallo, vai. Facciamo cantare Azzurro. Vai, vai, vai. Ci mandiamo Dejan a cantare Azzurro. Pronalo, allora alle 20 in punto mandiamo, alle 20 in punto e anche noi. Tu manda il tuo Dejan, eccetera, e poi gli facciamo cantare Azzurro. Allora, io voglio capire da Bianconi una cosa. Hai sentito qualcosa recentemente di carnivori e vegani? No. No, niente, niente di nuovo? No, mi lasciano in pace. Ah, ma non ti hanno minacciato anche a te? Sì, a suo tempo sì. Che ti hanno detto? I signori vegani? Che potevo morire, che è un assassino, che era meglio che morissi. Vabbè. Ma perché non diventi vegano anche tu? Va di moda adesso, Maurizio. No, guarda, una mia amica ha preparato una cena vegana per alcuni, me l'ha descritta, sì. Era da esaurimento nervoso, non tanto il mangiarla quanto il prepararla. Cioè, spiegami. Sì, cioè, perché bisogna far bollire tutte quelle lenticchie, quella roba, ci vuole ore. Beh, come si fa a bollire le... E poi bisogna essere ricchi, secondo me. No, bisogna essere tutto di una borghesia radicalistica che consenta l'approccio culturale alla cosa. Ma no? Io non farei una cosa ideologica. Bisogna essere molto radical chic. Ma cosa c'entra la sinistra? Poi, vedete sinistra ovunque. Dei bambini in Africa. Perché? Perché mi pensavo alle galline che gli tirano il collo, e so, voglio dire, i diritti dell'animale vengono prima dei diritti dei cristiani. Cioè tu dici i vegani, i vegetariani, così, quelli che rompono i coglioni sugli animali? No, il vegetariano segue una filosofia, ne conosco. Sì. È il vegano. Cioè il vegano alla fine se ne fotte dei bambini in Africa. Sì, no, ma vegano, dice il contrario il vegano. Il vegano dice che in realtà si risolverebbero un sacco di problemi col veganesimo. Sì, ne muove tanti prima, tutti i denutriti muoiono prima, così ce ne siamo meno. Cioè sono praticamente una banda di assassini vegani, dici? No, alla fine. Ma l'assassino non esageriamo, ma io ho letto sul giornale tempo fa che i tuoi genitori avevano fatto mezzo morire un figliolo. Sì, poi vanno controllate queste notizie. Comunque non è stata smentita. Comunque tu dici che voi immaginatevi un mondo tutto vegano scomparirebbe dopo che ne so, dopo 3 mesi saremmo tutti morti, cioè gli animali imperverserebbero. No, gli animali sì, sarebbe un mondo senza bovi, senza galline, senza capre, senza secondo pecore. Me Alfano è vegano. No. Senza nane, senza anatre. No, ma che è vegano Alfano? Ma come li consideri tu? I vegani come li consideri alla fine? Dei malati di mente, cioè degli spostati? Ognuno ha diritto di pensarla come vuole. Sì, però se ti incontrano ti guardano male. Ecco, basta che non aggrediscano la tua libertà, loro facciano quello che vogliono. Senti, ma ha ragione. Tutti. Sì. Siccome il comune di Napoli ha denunciato la RAI per questa cosa di Giletti, perché Giletti ha detto che in alcuni punti la città è indecorosa, tu stai con Giletti oppure col comune di Napoli? Io ho sentito Giletti, ha detto delle verità. Ha detto delle verità inattaccabili. Sì, anche perché io devo dire anche la verità. Tutte le volte che si dicono verità indiscutibili su posti, luoghi e persone, c'è subito la mozione degli affetti. Ah, o Sud non si tocca. Ah, il Veneto non si deve toccare. Ah, il Piemonte qua. Non ci toccate Napoli, non ci toccate questo. Non ci toccate Napoli, non ci toccate Palermo, non ci toccate Firenze. Cioè, c'è questo campanilismo ottuso che poi consente tutte le nequizie. Per cui anche per te Napoli per certi aspetti è infrequentabile, insomma. Certo, è pacifico. Senti, ma tu non ci vai? Tu ci vai o no? Poco. Meno, sento già la nostalgia. Il meno possibile, addirittura. Sì. Il meno possibile. Dov'è perché il meno possibile? Faccio un mestiere come il mio a Napoli e pigliare l'esaurimento nervoso il secondo giorno. Poi io sono uno puntuale. Se mi dice alle 10 sono le 10, se mi dice. Vabbè, adesso perché stai attribuendo. I miei amici mi spiegano che i napoletani sono verso il luot. Vuol dire verso il luot. Verso però anche a Roma, però. Anche a Roma si dice 8:30. È un vizio anche di molti maleducati. Ma quello è il traffico, onorevole. È il traffico. C'è traffico. Il traffico c'è per tutti. Lo so. Vabbè, però. Allora, quando io ero studente, che non avevo tanti soldi, andai a Milano a lavorare e si entrava alle 8. Sì. E io la prima mattina arrivai alle 8:10, anche perché in effetti mi ero smarrito nel traffico, eccetera. Andai, mi chiamò subito il principale e disse: sei arrivato in ritardo. Disse: ma c'era il traffico, e per noi tutti non c'era il traffico, e siamo tutti qui. Eh beh, ma grandi verità, grandi verità. Io voglio dire una cosa, ma Tavecchio, per esempio, lo condanni te per quello che ha detto? Ebreaccio, i gay. Per me Tavecchio svolge una funzione per la quale non è culturalmente adatto. Cioè dice le cose come se fossero storia del suo paese, sì, capito? Sì. Magari non ci mette le cattiverie che noi politicamente gli attribuiamo, ma dice delle cose indicibili. Poi, siccome sta sulle scatole a questo governo, ogni cosina la tirano fuori, capito? Tu dici che c'è Zanno Zampini. Non è che gliela scusino, ma che sia inadeguato è fuori di tutto. È indifendibile, ha ragione Bianconi. Sì, forse Pappagallo Kid lo difende, però. No, eh? Io non lo difendo, però dico. Però sì, non sì, sono Pappagallo contrario, stupendo, no, però sono contrario a questi processi sommari del tipo, ah, si deve dimettere. Ma perché deve dimettere? Non doveva essere eletto. Questo, esatto, no, perché come Marino, bravo, ora non capisce più un cazzo. Prima però l'hanno fatto fare le primarie dal segretario del partito. Sì, è vero, l'ha portato in Senato due volte. Non so se gli è andato alla presidenza di qualche commissione. L'hanno scoperto per sindaco di Roma. L'hanno fatto vincere le primarie. L'hanno messo lì. Gli hanno detto che era tanto bravo. Orfini aveva detto che meglio di lui non c'era nessuno. Come no? Io non capisco più. No, ma non solo, non solo questo. No, no, Maurizio, un'altra cosa l'abbiamo fatto sentire ieri. Orfini addirittura ha detto che. Sì, l'ho sentito. Una volta ha detto che era meglio di lei, poi ha detto il contrario. Aveva detto che opporsi a Marino, cioè chiedere le dimissioni di Marino, era come stare dalla parte della mafia. Ma quello era mafioso. Era mafioso. E poi sono stati loro a farlo dimettere. Allora, se tanto mi dà tanto, dovrebbero essere mafiosi anche loro. Non puoi chiedere le dimissioni sulla. Questo è un po' della sinistra. Io mi ricordo che la sinistra lascia fare le Brigate Rosse che gli hanno tirato anche, gli hanno sparato le gambe. Ma però la sinistra demonizzava Indro Montanelli. La mattina che Indro Montanelli disse che Berlusconi avrebbe fatto quello che poi ha fatto, cioè prima grande successo e poi grande disastro, e quindi non si associò al berlusconismo in politica, divenne un eroe quello che prima era un fascista, un traditore, come no. Un sudicio, un infame. Kid, che vuoi aggiungere, Kid? Che no, Parenzo gode quando parli. No, molto, mi piace molto. No, mi è piaciuto molto Nequizia. Io immagino la Merkel a cavallo nuda che grida Nequizia. La Merkel a cavallo nuda piacerebbe pure a Bianconi, eh? Piacerebbe anche a Bianconi. Merkel a cavallo nuda, Pazzeschi. Saresti attratto dalla Merkel a cavallo nuda, Maurizio? No, non scherziamo. La Merkel è una dei disastri. I disastri che ci sono toccati. Però dopo la pubblicità parliamo del Papa, argomento molto caldo e soprattutto molto caro a Maurizio Bianconi, scatenato sul Papa, andiamo. Siete criminali. La Zanzara. Curalo, curalo Parenzo. Insomma, curatevi uno con l'altro che avete bisogno di cure voi due. Ciao. Ragazzi, ho appreso che in una città che mi è cara come Pescara, perché ci abita una parte della mia famiglia, il sindaco che è Alessandrini. No, che c'entra Lazzi? Lazzi lo conosco, ma fosse non cara, fa mica parte della mia famiglia. Beh, il sindaco Alessandrini, che è figlio di Alessandrini, quello ucciso dalle Brigate Rosse. Dal 1 novembre il sindaco con una delibera ha deciso di mettere le multe da 500 euro alle prostitute, ai clienti in auto delle prostitute, riferita ad alcune zone della città dove pullula di prostitute. Altra ipocrisia assoluta, altra follia. Per togliere le prostitute dalla strada, per eliminare la prostituzione, cosa impossibile, si cercano strade demagogiche, ridicole, che non hanno senso. Ma perché bravo? Molto cosa? Bravo. Ma ti pare normale? Sono convinto anche che il nostro editorialista di punta, il dottor Pappagallo Kid. Io sono rapito, dai messaggi degli ascoltatori, arrivano insulti a valanga per voi. Allora, Bacchiesto idiota che avete in studio ce l'ha con Giuseppe. Poi c'è qualcuno che scrive sei un poveretto, la cosa grave ti credi un figo, ce l'ha con David. E poi c'è un altro che scrive Emilio Pappagallo è il numero uno, ascoltarlo da Cruciani mi crea un cortocircuito pazzesco, tipo trovare mia moglie a letto con la mia amante. Beh, questo è buono. Importante, eh? Importante. Intanto all'Università dell'Oregon sta succedendo un casino, E dopo ce lo racconti. Volevo chiedere a Maurizio Bianconi un'altra cosa. Ma il Papa, anzi la Chiesa, ha senso di esistere? Io questo l'ho già detto. Ma diciamolo, ridiciamolo. Molto, molto, molto sbrigativa, e lo ridico ancora. La Chiesa è una sovrastruttura terrena che, avvalendosi di mezzi tutti così spirituali, nel senso per tenere gli uomini sotto controllo, con la morte, la salvezza, la vita eterna, eccetera, si è creata un potere notevolissimo. Quindi non ha senso di dire. Una grande farsa, una grande farsa. Non è una grande farsa, è un grande business. Sì, certo, una grande farsa, diciamo, la sovrastruttura. Che arrabbiano con le sette, ma più setta di questa. C'è una setta, tu dici, cioè, sono tutte sette. Come Scientology, ma no, ma come si fa? Come Scientology. È uguale, perché come... Ma come uguale? Ma è uguale, ma ha ragione lui, ha ragione lui. Ha ragione, pure secondo me. E poi ci può essere un piccolo partito o un grande partito, una grande setta, ma una piccola setta, una setta che esiste 2000 anni, una setta che esiste 50. Ma il concetto è uguale. Il consenso organizzato con la spiritualità, con la divinità, con lo terreno, è tipico della setta. Dai, è una setta, è una setta più grande che magari esiste da migliaia di anni, però è quello, lo spirito è quello, il controllo delle persone per fare i sordi, è quella è la cosa, dai. È l'organizzazione della spiritualità, d'altro canto poi se ne è riso molto. Il commercio delle indulgenze, ma che la gente che viene convinta, la moglie del mio nonno, donna che aveva vissuto nel più completo ateismo, stava male, fu messa in un ospedale dove un frate cappuccino la convertì, risultato ha lasciato tutto alla chiesa. Perché così si è salvata l'anima, capito? Ma secondo lei si è salvata l'anima, naturalmente. No, appunto, ma l'aveva convinta a sé. Ma tu è per quello che sei arrabbiato, perché la bisnonna... Ci sono manomorti incredibili, le diocesi piene di terreni, di tutto. Cioè, è uno strumento di potere terreno. Scusa, d'altra parte, le notizie che sono uscite in questi giorni sulla vicenda dei corvi, eccetera, eccetera, parte delle cose umane. Sì, ma la cosa incredibile sono questa roba qua delle offerte con cui sembra che poi abbiano ristrutturato gli attici, eccetera. Ma di che vi stupite? Non ho capito. La gente che dà i soldi senza sapere dove finiscono questi soldi, a chi questi soldi sono destinati, poi non si può lamentare che vengono utilizzati magari per ristrutturare l'attico di Bertone. Se uno sa che li dà, ma io non do un euro alla chiesa manco sotto tortura. Tu hai mai dato un euro a nessuno? Bianconi, tu hai dato qualche soldo alla chiesa? Da quando sono cosciente no, quando avevo meno di 14 anni qualche offerta, quando andavo alla messa con i miei l'avevo fatto. Ma io penso che le religioni in generale le religioni siano la causa di tantissimi disastri. Maurizio, che dici? Intanto la religione è indispensabile all'uomo perché è consolatoria, spiega l'inspiegabile, e alcune di queste danno una spiegazione alla morte, ai dolori. Quindi una loro necessità sociale è la storia. Sì, sì. D'altro canto, quando si organizzano e quando il tuo Dio è meglio del mio, allora ci diventano pericolosi e sono molti più i mali dei beni che fanno. Cioè tu dici che per esempio il cristianesimo è pericoloso quanto l'Islam? Tutte le religioni monoteistiche sono pericolose. Per questa com'era la storia della bomba su Gerusalemme? Com'era la storia? No, io ho detto che siccome il monoteismo ha creato tante guerre e tanto sangue, pensate a tutto quello che è successo, se ci fosse stata la bomba atomica 2000 anni fa e fosse scoppiata a Gerusalemme, che non fosse nato niente di tutto questo, forse l'uomo stava meglio. Caro Parenzo, forse l'uomo stava meglio. Ma guarda che Che dici, Kid? Ha perfettamente ragione. Che poi se tu pensi a queste religioni strane, no? Tipo che ne so, gli Elohim, quello che cade nel vulcano, come si chiama quello lì che dentro è andato dentro al vulcano, gli hanno dettato gli Elohim le cose, eccetera. Non so, poi pensi, i cosi, come si chiamano quei cosi? Noi rettiliani, è una cosa del genere. Stavo dire Ryanair, ma quei Tipo i Ryanair, sì. Che poi io qui Ryanair lì li ho anche incontrati. Ho fatto una cena con Ryanair. Però guarda, vengo al discorso che facevano Giuseppe e l'onorevole. Cioè, l'onorevole. Mi piace dire l'onorevole. Il problema qual è? Che questi qui sono credono in una cosa. Uno che è andato dentro un vulcano, che gli ha detto, gli hanno detto gli Elohim. Ma la religione monoteista era una storia straordinaria, dai. Ok. Invece che uno è andato sulla sul Sinai, gli ha dato le tavole della legge, quello invece è credibile. Cioè, quella è una cosa. Sta in piedi. Dai, Maurizio, è più o meno uguale. Dai. Non si deve credere a questo Elohim, e poi si deve credere che un angelo è diventato diavolo e l'ha buttato giù nel costo. Poi che un dio sono tre, ma è uno solo e non si capisce come mai. Si concepisce vergine. Che uno manda il suo figliolo per morire in croce, non si capisce perché, poi risorge. Cioè, tutto questo è normale. Tutto questo è credibile. Ma quelli sono problemi nostri, io ho un'altra parrocchia. Diciamo. Cioè, o si crede a tutto o non si crede a niente. Ma io ho un'altra parrocchia, diciamo, però. Lui ha la parrocchia ebraica, come dire, che pure là, pure là, insomma. Però è bello quello lì, l'ebraismo è bello, secondo me. Senti, io non ho capito una cosa, ma Papa Francesco in tutto questo? No, io ho detto l'altro, lì ho detto tutta un'altra cosa. Io ho detto. Tu hai, l'hai definito pericoloso addirittura. È pericoloso, sì, perché e questa è la mia idea, tanto un gesuita, ragazzi, vendicativo. Un gesuita che si chiama Francesco, c'è qualcosa che non quadra, è già all'inizio che non sarebbe uguale che a te dicessero guarda, vai in quel posto dove è pieno di gay, te gay un sei, e allora ti vengo subito il dubbio che tu non, che non sia sincero quell'ingresso in quel posto. Cioè, quando una cosa è diversa dalla tua natura, cioè, tu dici lui si è chiamato Francesco, non può mai essere francescano. Ho capito. Questo è come dire un domenicano francescano, è possibile, è possibile. E in più fa delle cose di un populismo che non è all'altezza della cultura che ha. Io penso a quella croce con quella faccia Martello portata in Vaticano, che è un simbolo chiaro, che però non è un simbolo proprio da Papa. Oppure andare a Cuba, alcuni dice, alla fine dice è pericoloso per l'umanità. È pericoloso perché veste una, come posso dire, ricopre un ruolo politico secondo me importante. Come Wojtyla è stato importante nel definire la fine e accelerare la fine del comunismo. La Chiesa non vuole neanche il capitalismo eccessivamente spinto, è contraria. Il denaro e lo stesso. Vabbè, ma no, perché è pericoloso? Non ho capito perché. E allora lui tende a, come posso dire, a uccidere, a fare del male al capitalismo. Ma facendo del male al capitalismo, spiego in termini molto pedestri, finisce per toccare i fondamentali della nostra società. E questo è pericoloso. Cioè, è pericoloso per noi, per l'Occidente. Insomma, esatto, pericolosissimo. Sì. Senti, ma sono curioso di sapere che pensi di Cicchito, il signor Cicchito, che è diventato super anziano. Lo stimo moltissimo, certo, come analista politico, è un uomo simpaticissimo. Però il mio capogruppo. E quando mi disse, caro Maurizio, lui era presidente, questo gruppo che abbiamo è un misto fra un asilo infantile e un manicomio criminale. Tra un asilo infantile e un manicomio, guarda, criminale. L'avrà detto così, l'ha detto così. Guarda, Bianconi, guarda, è un misto tra un asilo infantile e un manicomio criminale. Guarda. Baldelli la fa alla perfezione. Guarda, andiamo a fare. Guarda, Bianconi, invece analisi politiche. Io gliel'ho detto tante volte. La sua intelligenza politica, che è notevolissima, è come quello che ha avuto un trauma da piccino. Lui ha battuto il muso nella faccenda Craxi. Tutte le volte che fa un'analisi politica, il trauma infantile, o meglio di gioventù. Ma ti stupisce che è diventato super renziano o no? Non ho capito. No, rientra nella sua logica. Cioè quella di stare vicino al potere, dici? È la sua logica, una logica governativa, certo. Stare vicino al potere. Verdini invece come lo definisci? Verdini è un uomo intelligentissimo che fa, che si vede quello che fa, che non nasconde niente, che dice le cose come stanno. E che fa? Affari. La politica come io sto alla cibernetica, cioè la politica per lui non conta niente. E che conta? Gli affari? Contano soltanto i rapporti di potere, i rapporti di forza, gli equilibri, tutto quello che c'è, ma lo dice. Come non è che non lo dice. Beh, non lo dice proprio così, non lo dice proprio. No, così. Lo dice. No, ma invece una cosa, ma la Pascale che si lascia con Berlusconi, almeno così sembra. Conosco la Pascale io. Ma che passaggio io è? Conosco Dudu, ma la Pascale no. Beh, conosci Dudu, se conosci Dudu conosci anche la Pascale. No, ma con chi è rimasto quando Dudu? Quando andai là quella volta che lo vidi, lei non c'era. Vabbè, ma appunto, ma Dudu con chi sta? Questo è il tema vero. Ma con lei, con chi vuoi che stia, con lei. Ah, sta perché ha affidato alla madre, dice, cioè, come bambini. No, sì. Vabbè, ma che storia è? Una tristezza, dici te, questa roba qua. Di Berlusconi che si fa. Io non è che sono permissivo con gli altri, meno qualcuno. La gente deve fare quello che vuole. No, ma ho capito, ma Berlusconi ha diritto di stare con la Pasquale e viceversa, senza avere critiche né altro. Se gli piace ci sta. No, ma d'accordo, ma lei che insomma, alla fine lui regala un sacco di roba a tutti, basta che stia insieme. Cioè, la sua la roba. Vabbè, ma che c'era un controllo della vita di Berlusconi, pare, giorno per giorno, secondo per secondo, minuto ma per io minuto. Non lo so, ma che sono pettegolezzi che non accetto lì, che neanche Va bene, ciao Maurizio, ciao, presto, voi, ciao. Ciao simpatici asinoni, sempre asini ma simpatici. Stufe e caldaie termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Vi presento La Zanzara. che grande novità che leggo, è il ministro Madia licenziare chi timbra invece se ne va. Beh, ci voleva un ministro per dire una cosa del genere, a parte che il ministro non può fare nulla. Ma è pazzesco nulla. Che non sia già così. No, ma dovrebbe essere così e non lo è. Che non sia così. Ma una frase ovvia detta dal ministro Madia, un dipendente pubblico che dice che va a lavorare e poi non ci va, deve essere licenziato, diventa quasi il fatto del giorno. Cioè, è pazzesca questa roba. Andiamo a fermo, Luigi, vai. Sì, buonasera Parenzo e Cruciani. Dimmi. Io, solo una cosa riguardo a Vanna Marchi. Secondo me metterei una Vanna Marchi ogni via, ogni contrada per svegliare il popolo. Il problema non è Vanna Marchi se ci sono gli stupidi. Io vorrei dire a Parenzo. No, questa è la tesi di Sgarbi su Vanna Marchi. Cioè, è cogliona la gente che è cascata nel tranello della Marchi. Cioè, sono stupide le persone che hanno creduto di poter risolvere i loro problemi attraverso il malocchio, no? Quello che era questa roba qui. Piuttosto no, che la grande truffatrice. La tutela dell'idiota è vero che è assurdo. Se uno pensa. No, ma non ha torto, però non ha torto. Parenzo, ascolta una cosa. Io vorrei dire a te, no? Se tu hai un appartamento e ti si dice che hai una fattura. Allora tu ti dice se la posso togliere, tu mi devi dare tanti soldi. Io ti vedi l'appartamento per avere no, io guarda che di fattura conosco soltanto la fattura. Tu lo faresti, non sei stupido, non lo faresti, no? Il problema non è Vanna Marchi, il problema è dello stupido che ci crede. Vabbè Luigi, ma lo Stato deve tutelare anche le persone stupide, certo. Non è che può tutelare soltanto gli intelligenti. Che facciamo? Mettiamo sì, il. D'accordo, però è anche vero che se uno crede a queste cazzate, un po' di responsabilità ce l'ha, dai, su. I truffatori ci sono ovunque, sono i truffati il problema ci per queste cazzate. Sono persone non tutelate, povere. Vabbè, ma che lo Stato deboli, debba tutelare anche queste persone è normale. Che... Luigi però sta dicendo una verità, non lo attaccate troppo, sta dicendo semplicemente che lui per esempio a una roba del genere non ci sarebbe mai... No, non... Luigi è un genio, ma insomma adesso al di là di questo... Cioè. Bisogna mettersi anche nei panni di persone che magari sono malate, che hanno come ultima speranza. Sì, Parenzo, però una cosa, io scommetto che queste persone hanno pagato cara la lezione, dopo che sono rimasti in mutande, avranno capito la... Ma guardi che non è solo questo. La vergogna del caso Marchi è che c'erano delle persone molto anziane, anche gravemente malate. Quando uno è gravemente malato, farebbe qualunque cosa pur di riversare una speranza in un farmaco, nell'acqua, in un sasso. Ma sempre in una testa di cazzo come lei. Cioè, capito? Questo è il punto, vero? Ma Parenzo, ascolta, ma questi sono casi estremi. Le persone che hanno una difficoltà si appellano a qualunque, si attaccano, pardon, a qualunque cosa. Questo è il punto. E allora, questa è tutela, bisogna tutelare queste persone che sono state insultate, prese in giro, minacciate, derubate da un bandito come Vanna Marchi della signora. No, c'è anche il signor Don Nascimento. Il mago, certo. Io secondo me metterei ogni contrada per sviluppare un po' lo stupidaggine che c'è, perché funzione sociale di Vanna Marchi. Ma non ho capito che cosa faresti tu, non ho capito. All'inizio l'hai detto, ma non l'ho capita bene. La metteresti in ogni contrada, che vuol dire? Io vorrei una Vanna Marchi ogni via, ogni contrada per far svegliare la gente, questo è. Per far svegliare la gente, da carta! Così, che urla così. Tanto non si sveglia, tanto la gente non si sveglia, cioè è come svuotare l'oceano con un cucchiaino, cioè non è che con 10, 100, 1000 Vanna Marchi allora si sveglia la gente. La gente, c'è anche la gente stupida, accettiamolo, però va tutelata perché non è che possiamo dire... Fermi ragazzi, allora... No, ho capito, Maia da Milano, vai. Maia. Il buon senso di Papagallo... Voglio Maia. Il buon senso di Papagallo Kid. Vai. Che meraviglia! Dimmi Maia, tesoro, dimmi amore. A cuccarvi. Chi sei? Chi sei tu? Dai, io sono Cruciani, chi sono? Ah, sei Cruciani? Sì. Ah, il telefono è un'altra voce però. No, ma che è più tosto. Ma che al telefono dove? Siamo in diretta. Sì, sono perché radio. Sentite sì, però io la radio non la sento, amore. Ma quando è che ci sentiamo? Sentite noi? Per i cazzi vostri. Ma non ci siamo mai sentiti. Bellissimo riuscire a prendere la linea. Sì, ma andiamo. Ascolta, su questa storia della depilazione. Ascolta, io volevo dirti una cosettina piccolina. Dimmi. No? In base a parte vanno a Marchi a cavallo spennata che mi fa troppo ridere. Ma poi volevo dirti una cosa, un po' di giorni fa voi avete fatto tipo un sondaggio, le donne pelate, non pelate. No, le donne che si depilano e quelle che non si depilano, in realtà c'era una bellissima frase pronunciata da Massimiliano Parente. Ma tu lo sai perché le donne si depilano tutte adesso? Lo sai perché? Non lo so, dimmelo. Perché a 30 anni sono già tutte quei peli bianchi, secondo te la donna... E allora? Perché allora la figa bianca, la figa con i peli bianchi, che c'ha di strano? Ma perché non ho capito? Ti fa schifo la figa con i peli bianchi? Tu... Ah, non lo so, se a voi vi fa schifo, a me fa schifo. Ma tu ce l'hai i peli bianchi? No, io sono spennata, quindi meglio ancora. Ma quanti anni hai, Maya? Quanti anni hai? Tanti. Papagallo, tipo, non 60, 70, anche lei, 80. Sono figa, ma sono spennata. Va bene lo stesso. Spennata, dai. Che vuol dire? Non ho capito. Spennata. Sono caduti? Spennata vuol dire che se ce li hai bianchi te li togli, no? Chiedo scusa se interrompo questa augusta conversazione. Però si potrebbe tingere anche, secondo me. Eccola. Perché non ti. Ecco, questo potrebbe essere. Che Pappagallo Kid fosse un punto di riferimento culturale. Maya, scusa. Io sono andata su un'isola dove c'erano i nudisti. Siccome avevo una cresta azzurra, allora ho pensato di farmela anche di azzurra. Ma guarda che questo dovevi fare. Invece di tagliarti, invece di toglierti. Avevo 30 anni, adesso ne ho un po' di più. Maya, invece di trasformare la tua figa in un sushi. Invece di trasformare la tua patatina, come direbbe Parenzo, in un sushi. Però così è. Selvaggia, così deve essere, diretta. Ascolta, comunque io ti volevo dire una cosa. Io quando ero piccola, no? Ho mangiato talmente tanti ceci perché non avevo i soldi per mangiare, i miei genitori mi davano ceci, piselli, fagioli, tutte queste cose. Sì. Ma io come faccio a diventare vegana adesso che solo a guardare ceci, piselli e fagioli mi viene il vomito? Lo so, purtroppo. Hai capito com'è la storia? Cioè, chi ha troppo alla fine. Ma io tra l'altro mangio un sacco di verdure, solo che ogni tanto mi faccio la bistecca, mi faccio il pesce. Ma non è che, cioè, voglio dire, fare una dieta vegana è difficilissimo. E poi tutti quegli animali che si riproducono in maniera. Direi di andare in India vegani a vedere cosa c'è. Che ci sono le mucche che girano. Io sono stata da quelle parti, ci sono le mucche che girano a iosa perché non le possono ammazzare. Cioè, malattie. Ciao Maya, ciao. Ma ci sono anche, oltre ai freegan, anche i respiriani. I respiriani, sentite questo. Io ogni tanto mangio. Ok, ogni quanto? E di media, se faccio l'ultimo anno, e più o meno una volta a settimana. Una volta. Cioè 50 volte all'anno mangi, più o meno? Sì, però può essere, ecco, 20 giorni, un mese, fino a 2 mesi ho fatto. Fino a 2 mesi di digiuno? Sì. Sembrerebbe che non c'è niente, però in realtà qui c'è atomi, fotoni, protoni. Di cosa ti nutri? Le cosmiche. Guarda, io non sono un scienziato né un medico, quindi te lo chiedo a te. Lo so, di energia? Di cosa ti nutri? Sì, il concetto è quello, che alimentazione pranica, prana significa in indiano energia vitale. Mi nutro di energia vitale, che ha detto che mangio una volta a settimana ma digiuno fino a 2 mesi. Comunque ragazzi, questo è l'estremo. Io preferisco i respiriani e i vegani, ma tutta la vita. No, poi ci sono quelli, cioè, almeno che un senso. Fanno la dieta primitiva, così. Aspetta un attimo, il sesso, i respiriani e il sesso. Tu hai energie per far sesso, tutto a posto. Cambia molto. Cambia? Sì. In che senso? Il cibo procura delle emozioni. Sì. E quindi con le emozioni ogni tanto sono difficili da controllare. Quindi senza quelle emozioni, quando sei nel sentimento, c'è molto di più controllo. Cioè nel sesso c'è più controllo se sei respiriano. A proposito, solo sotto, tra l'altro, perché sopra non gliela fa, secondo me, il respiriano. Cioè non ha energia. Non ha respiro. Come fa? Che succede con la birra invece, Kid? No, è questo infatti, perché lui dice sì, il sesso, poi ha fatto un po' il vago su questa storia qua del sesso. Invece pare che la birra, secondo una ricerca dell'università del Massachusetts in Vermont, nella Carolina del Sud. Vermont o Carolina del Sud? Lo sai che è uscito un libro, non è una ricerca, ho detto una cretinata, è un libro che si chiama The Married Sex Solution, A Realistic Guide to Saving Your Sex Life. Cioè praticamente, cioè, le soluzioni per il sesso trasposato. Però ti dà un respiro internazionale, vedi, una voce così. Una guida realistica a salvare la tua vita, per salvare la tua vita sessuale. Dovete bere tanta birra, tantissima. Ma io non ci credo, birra. Ma a me la birra fa addormentare. Ma di che parlate? Ma a me fa addormentare, non è che mi fa fare sesso meglio la birra, ragazzi. No, non è vero. No, tra l'altro pare che ti faccia guarire dell'eiaculazione precoce. Sì, se poi allora, è un problema, Parenzo, la birra come è ricca. No, io di questo non soffro di questo. Ma sì, hai fatto i figli, hai eiaculazio precox tu. Hai fatto un sacco di figli anche sorpresa, così, per cui è, ma non è che se uno fa figli vuol dire che ha l'eiaculazione precoce. Vabbè, comunque, quali sono i punti? Che vantaggi dà la birra? No, innanzitutto è bellissima questa scena di lui che sta facendo sesso con lei, magari lui da dietro, no, per dire, lei magari piegata un però, pochetto papagallo, così. No, per dire, no? Per dire, sì. No, stanno facendo sesso. Poi lui a un certo punto, sai quei momenti in cui, no, durante il sesso tu pensi, devi pensare, che ne so, all'F24, alla dichiarazione delle tasse, le cose, eccetera. Però un sorso di birra, no, te la metti lì vicino, un sorso di birra e vai avanti così per ore. Perché ma io non ci credo a questa cosa. Eiaculazione precoce combattuta grazie agli estrogeni, ai fitoestrogeni, una roba del genere, che aiutano a. Però questo è la birra in generale. Se la birra è scura addirittura. C'è la Guinness? No, sì, la birra scura in generale, allora erezione a go go. Ragazzi, questa roba è stata pagata dalla Guinness. Cioè, te lo dico io. Vedi che un uomo come Paolo Kid è capace di spaziare da cicchitto all'eiaculazione. Cioè, è un uomo completo, papà. Davide, tu lo sapevi che c'è il ferro. Nella birra scura c'è il ferro. E il ferro, lo dicono tutti, no? È una roba dura, no? Quindi effettivamente aiuta l'erezione. E poi la Guinness. E poi c'è la birra verde, questa cosa fantastica della birra verde. Alla mela, cos'è? Come sì, no, c'è, cioè, dentro di tutto, ginseng, cioè, ginkgo, questa biloba. Questa signora sessuologa che ha scritto che con la birra si fa sesso meglio, hai un'erezione maggiore, guarisci dall'eiaculazione precoce, è una totale deficiente. Allora, te lo dico, ragazza, una totale deficiente. Alberto da Milano, te lo dico io, ragazzi, ma è una cosa ridicola, dai. Buonasera, a proposito di birra, leggo in questo momento su Google che la Guinness diventa vegana. Sì, ho letto pure io. Red Ronnie mi ha mandato un messaggio: sei circondato, anche la Guinness diventa vegana. Stanno circondando. Sì, guarda, io non mi arrenderò mai, non mi avranno mai. Quest'altro sta morendo da giorni ormai, tossisce, eccetera. Domani vado a fare un check-up completo. Ma vai a fare un check-up. Questa sera ne bevo 10 litri per via. Che il Chalice non mi fa più niente. Bravo, sostituiscila col Chalice. Prova con la birra. Ma perché tu usi il Chalice? Io? Sì, io sì, ogni età, e beh, c'è una certa età per cui. Vabbè, non è che è obbligatorio, ragazzi, cioè non è che è obbligatorio usare. Sì. Ma amico mio, cioè, non è obbligatorio usare il Chalice. No, cioè, ma avendo una certa età, e c'è il calo del desiderio, il calo della quella che chiamano potenza sessuale. Allora, no? Leggiti un libro, amico mio. Il Chalice aiuta. Ma se non funziona più, leggiti un libro, guardi lui vuole, un film, scusa. Ma se uno vuole. Ma non è vero. Non è vero. Non è vero. Ma io mi sono sempre domandato, ma quando tu prendi queste compresse, no? Giovanni, Francesco, Alberto. Dico, quando prendi queste compresse, cioè io non ho mai. È subito patapum? Cioè, no, dipende. Il Chalice dopo mezz'ora, credo. Alberto, sai. Alberto, dimmi. Un giorno prima. No, il Chalice no, un giorno prima, dopo, amico mio. Che non sia successo niente che ti fa passare la voglia. Altrimenti il Chalice fa effetto il giorno dopo. Ma non è vero, il Chalice fa effetto mezz'ora dopo. Ma non è. Ma che, sei impazzito? No, non è vero. Ma come no? Quello. Ma stai dicendo il giorno dopo. Il Viagra mezz'ora dopo. È la pillola del giorno dopo. Questo sei sbagliato. È la pillola del giorno dopo. Giovanni da Modena, vai, Giovanni. Ciao Giuseppe. Dimmi. Pietro, è fantastico questo qua che scambia Chalice con la pillola del giorno dopo. Ma la cosa ridica, il Chalice si prende mezz'ora prima, dai, su, ma che ha preso questo fino adesso? Forse lui gli fa effetto ritardante. Che ha preso. Comunque no, io volevo solo dire che c'ha ragione Sgarbi, secondo cui se uno stupido dà dei soldi alla Marchi per curare le sue paturnie, è uguale alla stessa cosa che dare l'offerta in chiesa, per me. Cioè dare i soldi alla Marchi è come dare i soldi alla chiesa. Beh, non è sbagliato. Cosa. Tu glieli dai perché cerchi di guarire da qualcosa, speri in un miracolo, eccetera. È come dare l'offerta alla chiesa, no? Uguale, cioè, che non sai come li spende, magari per l'attico di Bertone. Cioè, dai un'offerta a una chiesa, o sai dove quei soldi, il percorso che fanno, oppure è inutile, perché poi vanno a tutti gli sprechi che ci sono. No, ma però c'è una bella differenza. Scusa, un conto è uno ti dice: se mi dai questi soldi guarirà dal tumore, se mi dai questi soldi ti rimetterai con tua moglie. E un conto è sperare, no? Che Dio mi aiuti, diamo questi soldi, la chiesa. Cioè, è un po' diversa come situazione. Cioè, tu stai promettendo una cosa che non sei in grado, quindi c'è la frode, chiaramente. No? Nella Chiesa sì, si può dire che ci sia frode anche lì, ma è un po' più difficile da provare, insomma. Ma sì, credo. Certo che sia diverso, non c'è dubbio. Fermi tutti, torniamo tra un attimo. È una cosa indegna la sua trasmissione. State ascoltando un programma offerto da Stazioni di Servizio Costantin. Se ti fermi, ti conviene. La Zanzara. He was playing pool and drinking beer. Nothing more than a case. Allora ragazzi, Zanzarology, antologia della Zanzara su Vanna Marchi. Zanzarology, Zanzarology, antologia della Zanzara. Carissimo, tutte le volte che tu eri in televisione che non avevi, avevi pochissimo ascolto, poi quando ne volevi un po' chiamavi Vanna Marchi e figlia. Fanculo, guarda. No, ci vai tu. Detto con rispetto assoluto, no, però. Ci vai e tu che forse sei piatti. Abituato. E partiamo subito piatti, in cara la mia Anna. Che hai ultimamente sei Stefania abituato, nobile, mi Stefania sa. Scusa, in che senso? Beh, in che senso abituato? No, scusa. Lei veniva dai. Ma mi dice a me vaffanculo, ci va lui. Ascolta, gente che piangeva, gente che ha tentato di suicidarsi perché ma ascolta deficiente, ascolta, guarda, io ti dico una cosa, se tu continui, se tu continui mia mamma si alza e se ne va, perché di processo l'ha già subito uno, hai capito? Ce lo dovrei, dove allora, va? Dove vado? Dove va? Saranno anche calzettini. Sono cazzi miei, mi hai capito bene? Chi si aspetta che una domandina sulla neanche chiedere scusa alle persone che hanno allora io sono almeno venuto in questo programma ed è la prima volta che parlo nella mia vita, certo. Per rispetto a Cruciani. Bene. Se era per te ti mandavo a fanculo prima. Beh, mi hai capito? Onore, e adesso ti mando a fanculo e me ne vado. No, ciao. Non esiste. Ma non ha detto nulla. Non ha detto niente. Ha detto, ha detto due stupidaggini. Ma non mi dà neanche la soddisfazione. Ho espresso un parere. Mi fai fare quattro domande per fare quattro domande per fare questa intervista. Stai zitto un attimo. Se io sapevo che c'era sto piccolo stronzo, ti giuro davanti a Cristo. Ma no, lei lo sapeva. No, ma questo è un essere che non deve neanche camminare per strada. Vai, adesso non esageri. Ha detto un suo parere, secondo me, su quello che è successo. No, lui non fa i nomi, lui è proprio cattivo dentro. Io non l'ho insultata. Calmatevi. Vendeva il sale, questa criminale. E tu che la difendevi pure. Ma certo che la difendevo, certo. Ma dove cazzo vai? Ma vai via. Ma devi nascondere una cosa, si sarebbe dovuta nascondere. Ma perché? Non ho capito. Ma perché fai così? Perché vendeva il sale. Perché ti accanisci con Vanna Marchi? Questo sale soltanto 40.000 euro. Dice cazzo, come 40.000 euro? 40.000 euro per cosa di sale. Non è sale, cretino! Questa è un unguento magico! Poi dice tutte parole scombine, 40.000 euro. Ma è un criminale. Mauro da Mantova, vai, Mauro. Ecco l'altro. Ciao, Coscielli. Oh, Mauro! Ma che cazzo fai tu? Oh, ma che cazzo tossisci? Tossisco così non parla. Ma io dico, veramente siamo alla follia. Tossisco così l'idiota. Mauro, dai. Oh, stai stare zitto quella merda umana lì. Eccolo. Quel coglione. Che ha fatto? Stai zitto, se no... Guarda, mamma cara, cosa gliene do quando per le mani? Cosa gliene do? Ma cosa gliene do? Ma perché la vuoi picchiare? Perché la vuoi picchiare? Gliene do a due fin quando sono dispari. Fai così, idiota. Vieni qua. Idiota, fai così. Vieni qui il 19 novembre a Milano. Che c'è la diretta della radio, che ti tiro una testata in faccia, sì? Così chiudiamo la questione. Vieni qua. Il 19 novembre, imbecille idiota. Vieni qua. Tu vai all'Ovittorio, te lo dico. Il 19 novembre. Tu vai all'Ovittorio, neanche all'ospedale, coglione. Davanti al microfono, che sei un testa di cazzo, che è antipatico peggio di un gatto attaccato ai coglioni. Imbecille. Ma che ha fatto adesso? Che ha fatto? Non ho capito. Ma hai sentito la Vanna Marchi cosa gli ha detto? Vabbè, ma quella è roba vecchia, è antologia della Zanzara. Ma uno perché deve ascoltare questo povero idiota? Tutti, perché lui è un idiota al culo. E basta con queste cose, questa tosse. Allora, ma è roba incredibile. Allora, guarda, dicevo, la Chiara mi ha mandato le foto. Sì, cazzo, Chiara chi? Sei? Chiara chi? Non ho capito, ma, Chiara chi? Ma mise Riccardo da Roma. Ah, sì, Chiara Siniscalchi, sì, allora? Ascolta, ma sei una faccia da Tamaro. Ma chi? Ma chi? Ma te, Cruciani, c'hai l'occhio della tenca morta, il gatto morto in testa. Dai, sembra il Tamaro, però, Non sarai antipatico, però. Vabbè, Mauro, ma che mi devi dire oltre a questa cosa della foto? Non ho capito, ma, Mauro. Ascolta, ma so formazione che ha ammazzato il leone. Sì. Ma cosa gli è venuto in tasca ammazzare un leone? Mangiare non lo mangia. Cosa gli è venuto in tasca ammazzare un leone? Vabbè, ma la gente è appassionata di caccia anche in Africa e va a cacciare in Africa. Vaglielo dire a Anna Molinari. E chi è? La vedova del conte Tarabini. Anna Molinari, quella di Blumarin, di Blugol. E allora? Lui l'anno prima era andato a sparare al leone. Sì. L'ha ferito. Ma il leone, sappiamo tutti, che ha una memoria infallibile. È andato là l'anno dopo perché voleva finirlo. Il leone ha finito lui. E vabbè, questo, d'accordo. Mauro. Perché, allora, io capisco chi vuole andare a caccia, fin per carità. Sì. Sto cercando di armarmi. Se mi danno il porto d'armi. Ma che ti danno il porto d'armi? Ma quando vai? Non credo. Ma non è un problema. Non è un problema. Ma non penso che ti danno il porto d'armi a te. Dai. Ma se non mi danno il porto d'armi? C'è l'arma a brasa, non c'è problema. Sì, l'arma a brasa, dai, ma è un reato, ma è un reato. Ma perché ti dovresti armare? Scusa, Mauro. Ma è un reato tenere in vita quel coglione di Parenzo, è un reato. Che è un coglione che non sanno un cazzo. Ha un cazzo, quello è una adesso, merda. Cosa c'entra Parenzo? Ma cosa c'entra Parenzo adesso? Parla cosa c'entra? Tu, bello, tu mi dici, è un reato, ma che cazzo è un reato? Io con una pistola a brasa mi difendo. Scusami, però, io devo dire, siccome tu non fai niente dalla mattina alla sera... Ma che cazzo dici? Che sono l'unico a lavorare? Che cazzo vabbè, dici? Ma ok, ma perché dovrebbero derubarti a te che non c'hai, non siamo dire, che sei diventato un... Bello, ma te sei venuto a vedere dove abito io? Dove abiti, scusa? Sono arrivati 75 negri in un colpo, perché i negri sono fatti venire qua per votare la manco di voti del PD. Partito piduista, PD, sì, no, ma sono capito. Guarda, la storia vera è che i Rom sono andati lì, hanno visto la casa, gli hanno lasciato i soldi perché hanno detto no, la casa. 75 negri, dove sono andati? No, i negri hanno visto, si sono divertiti con lui. Ma dove sono andati? E poi sono andati via. Ma sono venuti da te, Mauro. 75 negri. Gli hanno dato tablet, wifi, appartamenti dell'Alto che dovrebbero dare. Dove? Dove? In che zona? È una persona disturbata. Abito a Mantova, che abbiamo dato. È una persona disturbata. Fermo lì, stai fermo lì, non te ne andare, stai fermo. Che devo sopportare io. Abbiamo con noi Elena Morali. Ciao Elena, come stai? Ciao a tutti, bene voi? Beh, Pappagallo, conosci la signora Morali? No, non ho il piacere. Chi? Allora, chi signora Elena Morali, sì. Showgirl, cioè Parenzo, conosci la signora Elena Morali? No, stavo guardando su Google proprio adesso. Ma no. Non siete ignoranti. Io ho guardato il Cialis nel frattempo e ho scoperto che il Cialis fa effetto dopo, avevi ragione tu, dopo 30-60 minuti. Certo, 30, però c'è 60... anche un altro tizio che ha scritto a me fa effetto dopo 12 ore. Boh, vabbè. Vabbè, ma ognuno poi. Dipende Elena, dalle dimensioni. Allora, dovete sapere che Elena Morali è specializzata nel fidanzarsi con personaggi famosi. Morali. Allora, la prima domanda è questa: perché ti fidanzi sempre con personaggi, come dire, perché non ti fidanzi con un metalmeccanico, con un camionista, eccetera, eccetera? Ma mi ci fidanzo, è solo che non fa notizia. Ah, tu dici ci stai lo stesso, però nessuno vuole sapere. Chi sarebbero questi famosi? Certo. I famosi sarebbero l'ex di Lorenzo. Ah, aspetta, lì arriviamo. La prima cosa, innanzitutto, lei è stata anche con il signor Bossi, con il signor Trota, giusto? È la pupa. Bene, me lo ricordo benissimo. Giusto. Fu invitato da noi, il signor Trota, che all'epoca era famoso, il signor Trota, no? Esatto. Poi sei stata anche, forse anche con il signor Balotelli, o sbaglio? No, io non l'ho mai conosciuto e non so perché continuino a scrivere questa cosa. Vabbè. Non l'ho mai visto. E poi sei stata con il signor Lorenzo. Dove hai conosciuto Lorenzo, pilota, che è in testa, anzi no, deve recuperare 7 punti da Valentino Rossi, da insomma, sappiamo tutti, eccetera. Dove l'hai conosciuto? L'ho conosciuto al Rally di Monza, di qualche anno fa. Raccontaci qualche dettaglio di questa conoscenza. Come l'hai incontrato? Come l'hai incrociato? Tu perché eri lì? Anche a con Paolo di... Ruffini è stata, però. Sei stata anche con il signor Ruffini? No, assolutamente. Col mio amico Paolo. C'è scritto Paolo Ruffini rimorchia la pupa in hotel con Elena Morali. Ma non è vero, eravamo fuori a cena tutti insieme. Io leggo qua da internet. Niente, non sei stata con l'amico Paolo. Scusi, no, non avevo il piacere di conoscerla. Ma che Paolo è un mio amico, e poi facendo un programma insieme ogni tanto tra colleghi, poi non uscite mai insieme. No, ma c'è, noi no. Perché già non ci sopportiamo così più. No, niente, l'ho conosciuto a Rally, praticamente ero lì per salutare dei miei amici che gareggiavano come copiloti. E niente, mi ha fermato mentre stava facendo delle foto e mi ha chiesto se volevo entrare nella sala. Praticamente era una specie di? Sala ricostruita per fare un rinfresco. E poi? E poi niente, abbiamo iniziato a parlare, sono tornata il giorno dopo, ci siamo rivisti il giorno dopo, ci siamo risentiti. Ma tu sapevi chi era all'inizio o no? Esatto. No, io completamente ero non sapevi chi era. Totalmente. Cosa ti ha colpito di Lorenzo, signor per curiosità? Lorenzo. Signor Lorenzo. Ma sinceramente il fatto niente. Che fosse abbastanza no, niente, il fatto no, che fosse famoso però. No, il fatto che mi ha dedicato una canzone la prima sera e devo dire che era abbastanza stonato, quindi il coraggio. È più che sufficiente per dedicare. Io ho una domanda per la signora. La quale si è fatta, allora. Si è fatta scrivere, ha fatto una foto con una scritta sulle sue tette, che sono. Che misura hai sulle tette, Elena? No, una terza. Ma sono vere, no? Sono vere tutto? Sì, no. Completamente. No, vere. Vabbè, qualche ritocchino l'hai fatto, dai. No, mi dispiace, ma io sono completamente contro. Mi dispiace, cioè, non hai fatto nemmeno il naso, non hai fatto la bocca, nulla. La bocca, sì, la bocca. Ma se avessi fatto il naso, non avrei la gobbetta, sicuramente. Vabbè, insomma, che domanda hai, Kid? No, io volevo sapere se Lorenzo a letto frigna, cioè se frigna anche a letto Lorenzo. Sì, questa è buona, è buona un domanda. Frignone. Cioè, a letto no. Com'è, cioè, Lorenzo? Cioè, è un piagnone sì. Oppure no? Devo dire che dorme poco. Dorme poco, cioè sì, si occupa sì, di ma altro. Alla fine come lo fa? No, bene? Dorme poco perché si alza per gli allenamenti, ma non lo so. Non ma lo so. Fa bene o male? Cioè, uno da questo punto non di vista so. Soddisfatto. Ma come non lo sai? Lo saprai? No, non lo so. Poi si dice sia so. Super dotato, Lorenzo. Non so se ma è vero. Ma chi l'ha detta sta cosa? Non lo so. Bisognerebbe chiedere a Mark. Vabbè, sono andati a letto insieme. No, però vedo che girano delle stupidate in questi giorni sui siti. Sì, su Marquez omosessuale. È bellissima, Giuseppe, è bellissima la foto con Iannone Escilo sul scritto, ma è proprio scritto sul, sì, è sul scritto con una matita. Però per tu hai scritto questa cosa Escilo, no? Sì. Però contro il tuo ex fidanzato, vi siete lasciati male allora? Sì, abbastanza, ma più che contro di lui era proprio una cosa contro il fatto che, cioè, perché io passeggio per Valentina, secondo me è stata una correttezza quella che hanno fatto gli spagnoli. E dunque, secondo te dovrebbero... Insomma, sono pro Valentina. Cioè, però devo dire una cosa, Giuseppe, la foto è bellissima, Iannone Escilo, scritta meravigliosa, però io non sono molto d'accordo, perché io sono assolutamente pro Valentino, sono un grandissimo tifoso, però io credo che sia bello, cioè la cosa bella sarà se lui riuscirà a conquistare questo decimo mondiale in senza pista, capito? Senza poi arriva trucchi, Iannone, va addosso a Lorenzo, io esulto chiaramente, se Lorenzo cade no, io allora, esulto sicuramente come... Iannone però... non andrà addosso a Lorenzo perché gli italiani sono più corretti degli spagnoli, ma al di là di questo io penso ma lui che pensava di Valentino all'epoca quando ci stava insieme, che pensava di Valentino? Ma io infatti sono un po' allibita perché comunque lui non ne ha mai parlato bene. Quindi penso che non fosse troppo contento di lavorarci insieme. Ha un po' il complesso di inferiorità su Valentino Rossi, secondo te? Beh sì, anche perché Valentino è un campione, lui ha vinto... Cioè ti parlava volta. Qualche volta di Valentino, si incazzava, era nervoso quando si parlava di Valentino? Non era entusiasta del fatto che avrebbe dovuto iniziare una stagione insieme a lui, perché era quando l'ho conosciuto io doveva iniziare dopo poco a andare a cambiare squadra. Cioè già, non lo già all'epoca non lo sopportava? No, io penso che quando sei invidioso della forza di qualcun altro che è più bravo di te, sia normale che un... Senti, ma l'avete mai fatto nei box voi? Tu e no. Signor Lorenzo? No. Mai. Ma la domanda moto, è, l'avete la, moto mai, un master, la domanda dai. È, l'avete mai fatto? Questo è il punto. No. Beh. Non vuoi un punto di domanda? No, ma perché è curiosa questa cosa qui? Cioè, nel senso che i piloti alla fine sono da questo punto di vista come sono? Cioè, sono molto tranquilli perché sono molto attenti a come no, all'energia che spendono oppure no? Sono tranquilli in tutto, sì. Sono molto attenti alle loro energie, sicuramente sono più attenti a quello che al resto. Quando mettono la quarta. Quando ingranano poi quando ingranano. No, dicevo, lei signora dottoressa, che idea si è fatta della vicenda di Nevati Leaks e del Papa intercettato? Ma che ne sa? Cioè, che ne sa? Cioè, signora Morali, lei è a conoscenza della vicenda dei corvi? No. Dei corvi di ma quel lei Papa. È concentrata su Iannone Escilo. Scusa, una cosa alla volta. Adesso facciamo Iannone Escilo fino a Valencia. Scusa. E poi dopo ci occuperemo anche di WikiLeaks e delle altre cose. Ma perché vi siete lasciati allora? Perché non andavamo più d'accordo. Vabbè, quello d'accordo, vabbè, d'accordo. Ma perché? C'è un motivo particolare? Perché è un frignone, perché Lorenzo è un frignone, dai, Lorenzo. Ma no, fondamentalmente perché io sinceramente a fare con una persona che fa così tanto il VIP in tutte le situazioni non... In che senso fa così il VIP? Era geloso? Ma, no, geloso. Fammi un esempio. No, assolutamente. Ad esempio, non lo so, andiamo ad un ristorante, ad esempio... Non lo riconoscono subito, lo fanno aspettare, dai, non si può pensare di andare via. Fa fuori testa. Sì, e lui protesta, perché fa fuori testa. Più che protesta dice vabbè andiamo. Ma com'è alla fine? Proprio un ragazzino sto. È tirchio poi, mi sa Lorenzo, tirchio, vero? L'ha cacciato di sordi o no? Ma... Ha fatto pagare te? No, oddio, adesso anche a te non penso. Però è più galantuomo secondo me Valentino. Vabbè, ciao Elena, ciao. Ciao a tutti. Ciao. Mauro! Mauro! Sì, c'è! Oh! L'hai ammazzato quel coglione lì! No, sta qua, è qua, è qua, è qua! Tira l'acqua che va giù, che gli stronzi vanno giù! Se non va giù, se non va giù, li devi prendere la bastonata o va di latte! Mamma, se la va di latte in faccia lo prenderei! A va di latte sto coglione! Ma perché? Perché? Perché? Prima tutto un ebreo di merda, poi è antipatico. Ah, ridai con questo ebreo di merda. Guarda che fra poco ti mettono in galera per queste cose, eh. Cosa? Ti mancherebbe altro. Ci mancherebbe altro. No, l'unica roba che gli succede è che sudano troppo e stai gli dà una testata. Ascolta, veramente. Ascolta, io faccio sempre il saluto romano. Ricordatelo. Ma perché sempre fai il saluto romano? Perché? Perché? Perché io non sono di sinistra. Ma perché è un disadattato mentale? Ma uno io mi sento sei, un nazista. Ma è nazista, dice il nazista. Ma no, ma poveretto, ma è un disadattato mentale. Ma è un disadattato. Ma perché sono nazista? Ma come si fa a dire sono nazista? Spiegami, ma, Mauro. Ma se uno è malato. Inter politicamente mi piaceva, era perfetto, perfetto politicamente, ma, perfetto. Ma non puoi dire che era perfetto Hitler, Mauro, non puoi dire una cosa. Ma se Stalin ne uccisi 8 milioni, che cazzo dici? Ma che Stalin ne uccisi 8 milioni, Hitler ne uccisi 4 milioni e mezzo, meglio, e Stalin dice ha passato liscia. Sai perché Stalin ha passato la liscia? Perché? Perché gli estrazione ebraica. Ma è impazzito. Certo, documentati, coglione, documentati. Ma tu l'hai mai sentita sta cosa, David? Che Stalin è di origine ebraica? No, sì, sì, certo, ci stavo ragionando. Lenin, Putin, Robin, Putin sono anche tutti gli Robin, ebraica. Tutti comunisti, praticamente. E Paperino? Sono tutti gli e Paperino? E Topolino? E Gamba di Legno? E Gamba di Legno? E Gamba di Legno? Allora, e Topolino? E tua madre, e tua madre, e tuo padre, e Topolino. Ma vaffanculo, il povero imbecille. Vieni qua il 21 a Milano. No, che ti 19. Do una, il 19, scusami. Il 19, Cruciani, che ti do una testata. Già non hai i denti. Ti do una testata in faccia. Aspetta, aspetta, aspetta. Vedi che se si taglia la gola, se si taglia il collo, gli cado in gola sto coglione, capito? Ma sto coglione. Ma smettila, ma smettila, Mauro, smettila. Kid, di qualcosa, Hitleriano, Mauro Hitleriano. Che mi viene sotto le mani lo sbudello. Ma magari, guarda, ti aspetto. Ma magari se preferisce lui di Hitler, ma magari. Il primissimo periodo, quello. Vabbè, ragazzi, avete rotto le scatole. Ci sentiamo domani, vai. Ciao, ciao, Mauro. Ciao, ciao. Vai a quel paese. Dite gratis, sta merda. È una merda umana. Ma smetti, la buffone. Andate per affanculo e si riesce la questione, insomma. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza. Lo so, alle 8. Lei ha ragione. Lo dica, a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere, ridere. Siamo ad alti livelli qua, Radio 24. La passione si sente.